ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La Zanzara. Una dura femminista ed un morbido maschista, questo amore è una svista. Bruci in piazza un reggipetto, mentre forse per dispetto te lo metti pure a letto. E poi sarei curioso di capire il fatto che tu giri in calze nere sconvolgenti, che è un piacere. Siccome una sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che lei paghi 100.000 euro al giorno alla sua ex moglie Veronica Lario. Lei non è informata, Lario. Sono 200.000. 200.000 al giorno? Sì. E questo le dice chi signori, i giudici di Milano. 200.000. Tre. Ecco, non, ma le voglio chiedere, questa è la parola l'appello, sulla sua... c'è l'appello. Ma veda dove come lei sono... cercherà di ridurre. Senta, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? Allora, sono tre donne, tre giudici donna, femministe e comuniste, le basta. Vedo gli occhi tuoi che vanno a bagno nei miei. Le tre signore comuniste e femministe si chiamano Gloria Servetti, Nadia Dell'Arciprete e Anna Cattaneo. Benvenuti alla Zanzara, buonasera Parenzo. Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori e buonasera a tutti quelli che sono stati malati di congiuntivite della vita. Vabbè, adesso devi fare una sceneggiata perché sei stato malato di congiuntivite, non ho capito. No, sono tuttora molto malato, giro infermo per la città con degli occhiali neri. Sì, vabbè, questo no. Scuri. Sì, questo che cosa ti impedisce di fare? Curato. Cosa ti impedisce di fare? Non ho capito. No, è una, qualcuno mi ha lanciato un malocchio perché c'è stato qualcuno che evidentemente, forse quel signor Otelma lì e tutti questi qui, questi personaggi che ogni tanto lei invita in questo circo straordinario di umanità. Però ogni tanto qualcuno di questi... Sorvi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Senti Radio Padania sull'accordo tra Berlusconi e la Lega, eh? Senti. Se ci si mette con Berlusconi, primo la si prende in quel posto, perché lo sappiamo tutti che Berlusconi ormai è uno psicopatico, vabbè, i suoi dovrebbero ricoverarlo, vabbè, perché... Okay. Secondo me col PDL, anche se formalmente accetterà il discorso di tenerci il 75% delle tasse, si comporterà alla fine come ha fatto col federalismo. Ah. È vero che non c'è più il Giuda Fini, eccetera, ma sono troppe le perrazioni e i parassitismi che ha al suo interno del Sud per essere un partner affidabile. Non sono così stupido da non capire che ci siano anche calcoli politici, però un po' di rispetto anche per chi si sente... in qualche modo non tradito, ma ha difficoltà ad accettare questa posizione, ci vorrebbe senza dirgli che è un falso leghista. Maroni non aveva detto che la Lega si sarebbe astenuta dal partecipare alle elezioni politiche nella futura legislatura. Padania bella e libera, guarda avanti. Maroni crede nella parola di Berlusconi. E poi di cosa si sta parlando ancora di questa vicenda di Berlusconi premier? Lo sanno tutti che non accadrà, no? Che è molto molto molto difficile che accada. Io non mi auguro nulla naturalmente, no? Al contrario di Parenzo che se lo augura probabilmente che Berlusconi... No, no, no, poi siamo tu ti auguri, di la verità, tu ti auguri che Berlusconi non diventi presidente del Consiglio. Io sono indifferente, questo... tu invece te lo auguri. Quindi poniamo questo subito... voglio dire... No, ma non voglio neanche dirlo, perché sarebbe assurdo anche solo immaginare che possa tornare a farvi vedere così. No, ma tu non te lo auguri, questo era di tu non te lo auguri, mentre io sono neutrale. Non interessa nessuno quello che ti auguro io. No, interessa moltissima gente. Comunque, Maroni, quando Berlusconi prende un impegno... Stai zitto un attimo, è evidente che tu non te lo auguri. Quando Berlusconi prende un... Aspetta, quando Berlusconi prende un impegno lo mantiene. Io mi fido degli impegni scritti, degli impegni presi. La mia esperienza concreta di governo è, dal suo punto di vista, di una persona che quando prende un impegno, soprattutto se è scritto, lo mantiene. Ma veramente la storia politica di Berlusconi dimostra il contrario, però qui siamo di nuovo alla mitica frase che ci ricordò Rotondi, insomma, le cose che dicono i politici valgono per il momento esatto in cui vengono dette. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Continuano a chiedere, anzi no, restiamo su Berlusconi, va, questi 300.000 euro di IMU, ha pagato 300.000 euro di IMU. Io per esempio oggi mi sono accorto di quanto ho pagato personalmente sulle case di mia proprietà dell'IMU. Avrà pagato un bel po', quanto ed è una pagato? Cifra abbastanza importante, 300.000 euro. 300.000 euro, in rapporto alle tante proprietà che ha. Ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Basta! Basta! Basta! Senza dubbi né ripensamenti. Il rap su Berlusconi e Tremonti di Giannino. Senti. Guardavano. Berlusconi Tremonti. Il signor Berlusconi. Berlusconi. Lui. Berlusconi. L'obbrobriosa legge elettorale che Berlusconi continua a regalarci. Berlusconi. Ripensamenti. Sgarbi è tornato sulla sua pensione questa mattina. Aria che tira. All'aria che tira. Ci mantengo i miei. Ci mantengo i miei figli. Vabbè, ho capito, però non è che. Non è che se ci mantieni i figli allora è giusta la pensione, il vitalizio. Poi per carità ce l'ha lui come tanti altri, 8.000 euro e rotti. Ci mantengo i miei figli, Sgarbi, il tuo cavallo di battaglia, Parenzo. Bisognerebbe chiamarlo, Però posso anche dire che nel nome del figlio io non prendo una lira, perché io ho tre figli che ricevono direttamente i miei denari. Uno riceve 3.500 euro, uno 2.500, quindi se dovesse interrompersi questo flusso che va direttamente verso loro, io dovrei trovare il modo di mantenerli indipendentemente da quel vitalizio. Il quale vitalizio? Li manteniamo noi, però insomma non è proprio... non propriamente tu. Il problema li manteniamo noi, esattamente. Li manteniamo noi, però ognuno poi con i soldi del vitalizio ci fa quello che vuole, Cioè li può pure spendere tutti per andare a prostitute, li può pure spendere tutti per andare a fare un sacco di viaggi, per divertirsi, oppure ha il bisogno, la necessità, perché ha fatto figli a destra e a manca, di mantenere i figli, no? Beh, almeno non è un ipocrita. Ma la cosa incredibile in queste ore, gentili ascoltatori, cari ascoltatori di Radio 24 della Zanzara, è soprattutto la giravolta di Formigoni, il quale zitto zitto, quatto quatto, concedendo pochissime interviste, anzi nessuna, ma scrivendo su Twitter, sta per preparare il grande tradimento nei confronti di Gabriele Albertini. Formigoni, il quale pochi mesi fa, il 17 ottobre, per esempio, diceva no a Maroni, con cui adesso si allerà, almeno così sembra. Albertini invece è una bella candidatura, invece pugnalata alle spalle. Io, Formigoni, non ritengo che Maroni possa rappresentare l'unità di PDL e Lega. Gabriele Albertini sarebbe una bella candidatura. Che ci spreme, sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Beh, alla 7 in particolare, al servizio pubblico, ma ancora circola Formigoni. Si preparano in questo, ma perché non dovrebbe circolare, no, adesso? Chiedo che vuol dire circola? Ma va a fare polemiche più interessanti, ancora circola, che ancora? Vuol dire? Ma che vuol dire? Circola ancora senza averci spiegato la sua amicizia con il signor D'Accoggi. Ma circola l'ha spiegata, ancora? Dai, su, non fare polemiche inutili, circola dai, ancora. Non fare polemiche inutili, dai. Circola ancora. Non fare e polemiche circola inutili. Ancora. E circola ancora. Padania bella e libera, guardava andava. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Oh, la Vezzali, l'annuncio di Monti, lo vogliamo sentire sulla Vezzali? Beh, che si fece sportiva, toccare anche se in maniera, come dire, toccare nel senso schermistico del termine. Ma è per dimostrare che l'Italia può vincere. Bisogna anche rivolgersi a personalità, persone dell'Italia che vince e che vince con sforzo. Sono molto lieto che abbia accettato di presentarsi con noi Valentina Vezzali, la schermitrice italiana, campionessa olimpica. Fioretto, campionessa olimpica, e malgrado abbia deciso di voler continuare l'attività sportiva professionista fino alle Olimpiadi di Rio del 2020. Guarda oltre i monti. Così si prepara il confronto di domani tra Santoro e Berlusconi. Sentiamo. Lei è un lottatore ed è emerso in modo molto chiaro. Sa dove vado giovedì? Vado addirittura da Santoro. E incontro il mio amico Travaglio. Ecco. No? Ecco. Il Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà, figlia della libertà. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ma tu ieri ti sei perso Gentilini, eh? Berlusconi pallone gonfiato, che si è sgonfiato insieme alla Lega, contrario all'accordo, Bossi candidato, si scoprono le tombe e si levano i morti. Sentiamo questo, Bossi candidato, si scoprono le tombe e si levano i morti. Continuavo l'accordo con Berlusconi. Bossi sembra, potrebbe essere addirittura candidato in Parlamento, ma secondo lei deve andare... Ma no, lasciamo perdere. Si scoprono le tombe e si levano i morti? No, assolutamente no. Restano sepolti. Pronto? Sì. Grittini? Sì. Sì, buonasera. Sono Cruciani, come sta? Bene, bene. Com'è? Ancora colpito da questa vicenda? Non lasciamo dichiarazioni. Ma come non rilascia dichiarazioni? Perché non rilascia? Grazie mille. No, scusi, Grittini. Grittini, aspetti un attimo. Come non rilasciamo dichiarazioni? Ma sai chi era, Parenzo? Sai chi era? Cosa vuol dire rilasciamo dichiarazioni? No, non rilasciamo dichiarazioni. Che rilasciamo? Ma rilasciamo chi? Perché in quanti sono? Quello pure è vero, non rilasciamo, è vero. Questo qua è un signore ventunenne, Riccardo Grittini, assessore allo sport. Ma lo so, quello è razzista, è l'assessore razzista. Sì, razzista. Adesso lui dice di no, ovviamente. Adesso tu hai già già bollato come razzista. Cioè, Ma no, io non ho aggiunto ancora schifoso, perché ha chiuso. Sì, ma tu dai tutto per scontato. Questo qua dice di non aver fatto nessun burazzista. Dice, io non lo so se è razzista o no. Riccardo Grittini. Sì. Così si chiama, nome e cognome, sì. Questo signore. Che adesso ha avuto l'ardire, sì, chiamato dalla Zanzara in modo assolutamente gentile, di dire non rilasciamo dichiarazioni. Primo, quanti cazzi siete? Sei uno, sei Riccardo Grittini. Rispondi e parla, no? Non rilasciamo dichiarazioni, che vuol dire? Ma rilasciamo chi? Aspetta che lo richiamo. Per forza. Ci penso io. No, tanto adesso non risponde, è chiaro, no? Neger? No, non rilasciamo dichiarazione. Vodafone. No, adesso non risponde. Segreteria telefonica. Bene, 800 24 00 24. Bersani oggi ha detto Monti dica chi combatte. Che vuol dire Monti dica chi combatte? Monti combatte sia contro Bersani che contro Berlusconi. Perché dovrebbe dire chi combatte? È chiaro, se uno si candida contro l'altro candidato premier e l'altro ancora. Adesso perché c'è la necessità che Monti dica il mio nemico è più Berlusconi che Bersani, no? Lasciamo perdere gli altri, mi sembra una pretesa assurda o sbaglio? No, questo sì. Luciano, provincia di Trento, buonasera. Oh, buonasera, come andiamo? Abbastanza bene. Meno male, sei uno dei pochi che va abbastanza bene in Italia. Non mi lamento, sì, allora? Niente, perché visto che abbiamo questi esempi di questi politici così che salgono, scendono, vanno di fianco a destra, a sinistra, su. Vabbè, però vada al sodo, Luciano, su, che vuole dire? Sono tutti uguali. Allora, quando uno dice che sono tutti uguali, non sì. È un qualunquista. Vabbè. È un realista. E allora? E allora bisognerebbe che gli italiani avessero veramente il coraggio di mandarsi per fanculo questi. Prima bisognerebbe togliere tutti i soldi a questi qua perché ci hanno rubato tutto, anche la dignità. Pensa te se Sgarbi deve... Se io devo mantenere i figli di Sgarbi, ma stiamo scherzando, ma roba da matti. Solo in Italia veramente, guarda. Uno che è già senatore, che si candida, che poi non ho capito perché l'hanno fatto senatore, perché? Poteva fare il capo del governo anche se fa il senatore a vita, no? Poi? Come no? Poi? Come no? Si vuole sfogare poi ancora abbiamo... un po'? Ma no, ma non è bisogno di sfogarsi, proprio perché veramente... Sì. Cioè, le cose più belle che sono i duetti che fai tutto Parenzo, perché ogni volta che si parla di questi banditi... Sì. È un dramma in Italia. Ma veramente. Luciano, la resti lì. Roberto da Torino, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Io sono stupito nel sentire parlare di politica quando le condizioni che ci hanno portato a questo sfacelo non sono cambiate. Cambiare gli uomini equivale a cambiare la bandierina su una merda. Il profumo rimane lo stesso. Per andare ma lo a sai votare, che non ho capito nulla di quello che sta dicendo lei, non ho capito assolutamente nulla. Sto dicendo che la struttura paese, per come è strutturata proprio sì, l'Italia, ma che vuol dire? Mi dica una cosa di una cosa concreta, una. Senta, siamo pieni di numeri verdi che apparentemente propongono soluzioni per tutto. Numeri verdi? Numeri verdi? In realtà, sì, ma quali numeri verdi? Ma quali numeri verdi? Allora, noi per allinearci all'Europa siamo tenuti a dare determinati servizi, il giorno dopo che ci viene imposto istituiamo dei numeri verdi ai quali però non risponde nessuno. Basta! Basta! Basta! La mia noce passa in blanco, mañana yo soy stanco. Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, onorata di essere femminista. Io potrei dire persino di essere onorata se qualcuno dicesse di me che sono una femminista. Beniamino, provincia di Latina, buonasera. Come qui, buonasera a lei. Senta, la prima cosa volevo rimproverare un attimino, perché lei Parenzo lo tratta troppo male. Dice? Eh sì, perché ultimamente è stato malissimo e lei ha infierito ancora di più. No, veramente ieri è stato male. Ieri, ma non c'è una malattia, non è malato, non si preoccupa. È stato malissimo, vedi. Io mi preoccupo perché è una persona molto valida, anche perché mi sta molto a testa con lei, fai, sta molto dietro. Sì, sì, ma io anch'io mi preoccupo, però poi... mica tanto, Lei dice, Senta, però io volevo fare veramente un'affermazione su quello che ha detto Berlusconi, sottoscritto con Marroni, sempre questi contratti che sì, fanno. Sì, allora? Lui ne ha fatti diversi, ne ha fatti quando è entrato, l'ha fatti in diretta con gli italiani, porta a porta ha sottoscritto un contratto con gli italiani, ma poi non ha mai mantenuto o pochissime cose di quello che ha detto. Io questo volevo dire. Che dice lei? Cioè lei dice che siccome ha fatto il contratto con gli italiani non l'ha rispettato, perché Maroni dovrebbe fidarsi di lui? Ecco, no? Esatto. Vabbè, ma quello che diciamo, è quello che diciamo prima noi. Esatto. Io va bene, grazie. Pino da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Innanzitutto buon anno e tanti auguri. Va bene, a Parenzo, ma noi non ce ne frega. A noi non ce ne frega niente, né degli occhi di Parenzo né del buon anno. No, per carità, la vista è importante. Poi? Senta, una cortesia. Io ho molto al cuore la situazione dei marò italiani, di quei soldati che hanno avuto un rispetto incredibile per l'Italia e anche per l'India, ripresentandosi nuovamente. Sappiamo qualcosa di nuovo com'è la situazione? Non lo so, si informi da un'altra parte. Ma voi sapete quando ci sarà il... Che ne so, consulti internet, no, non lo so, non seguo questa cosa, non so. Quindi non viene seguita da voi? No, a me non me ne frega niente, se le devo dire la verità. Cioè, non sono di quelli che difendono i marò, perché non conosco bene la vicenda e comunque c'è di mezzo la morte di due persone, per cui... Vabbè, ma sono sempre due italiani... ho capito, ma non è che gli italiani vanno difesi sempre e comunque, qualsiasi cosa abbiano fatto. Questo qui. Grazie, sono Antonio da Latina, buonasera. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Vada. Giusto. Dunque, io per allinearmi a Parenzo dico se Formigoni ancora circola, lo stesso per la Polverini. L'ho chiamato ieri sera perché la Polverini ha fatto non c'ho parola, avrebbe fatto bene alza bandiera bianca, di non era la stessa della situazione, punto. Invece per quanto riguarda i magistrati, i giudici che hanno imposto a Berlusconi di dover pagare quelle somme alla sua ex consorte, c'ha ragione, perché un giudice non è mai dico imparziale. Basta vedere quella canzone meravigliosa che ha scritto De André, un giudice, dove c'era un nano, sì, che la conosce bene anche lei. E che dimostra proprio questo, che un giudice non è mai imparziale, c'è sempre qualcosa da rivendicare contro qualcuno. Ma questo che vuol dire? Che secondo lei 200.000 euro al giorno... A parte io sapevo 100.000, poi ieri Berlusconi ha detto... No, 100.000. No, ieri Berlusconi ha detto 200.000. 200.000 al giorno significa che sicuramente è una decisione ingiusta. Beh, adesso io ma non lo so. Ma 100.000 euro al giorno... Bisogna vedere i criteri, cioè non è che valutano le cose in base al fatto cioè, che sia Berlusconi. Oppure sì, oppure evidentemente c'erano talmente tanto con Berlusconi che hanno trovato la prima volta che hanno potuto colpirlo direttamente sui soldi. È successo anche altre volte, l'hanno colpito. Non lo so, credo di no. Insomma, non... Ma io invece penso proprio così, perché io di questa magistratura, per carità, poi non si può fare tutta nel fascio, ma nella stragrande maggioranza dei casi va da sé che una persona, cioè una bella donna che deve un attimo. Chi è questo? Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Giuseppe, provincia di Siena. Buonasera, Beppe. Giuseppe, dica. Vada, Giuseppe, dica. Sì, vado. Sono in macchina, poi se vado io. Tutto l'anno vado. Vada in macchina, vada. Volevo parlare delle candidature che aveva fatto. C'è un ritorno. Anche io ho un ritorno, guardi, sapesse che ritorno che ho io. Sapesse il mio. Sapesse che ritorno. E senza tredicesima quelli sono problemi. E allora io volevo parlare sulle candidature del PD che ha paracadutato i campioni mondiali di gerontocrazia parlamentare in mezzo Italia, no? La Rosi Bindi, tutti, io lui che non tutti, adesso non è che c'è tutta la gerontocrazia. Questo signore che si chiama Bersani ha sbandierato a tutta l'Italia che sono delle candidature di alto profilo, che sono qui, che sono là, che lui è il democratico che ha fatto le primarie, ha fatto le parlamentarie. Vabbè, ha aperto un po', adesso in giro tutti, ma mica scusi Giuseppe, perché lei che dice è entrata tutta la nomenclatura del partito, hanno fatto questa specie di primarie, tutta la nomenclatura del partito, tutta ho tutta. Capito, però hanno anche scusi. Sì, d'accordo, adesso poi ne parleremo, però c'è stato un minimo di apertura, forse è stato troppo enfatizzate queste primarie, eccetera, eccetera, però un po' di apertura c'è stata o no? Ma un po' di apertura a chi, scusi, me lo devi spiegare? Hanno fatto le primarie o no? All'età civile, Ma le hanno fatte le primarie o no? Ma lo sai in provincia di Siena parlamentare dove si poteva votare? Solo in tre comuni, su 36. No, ma è stata una cosa limitata, non c'è dubbio. Allora, scusi, io non vedo tutta questa novità, questa democrazia, dal partito più arretrato, come dice Monti, che esiste in Italia. Scusi. Io sono un anticomunista di quelli viscerali. No, quello sarà capito. Anche se sono toscano. Questo si capisce. Anche se sono toscano, sì. Io ho grande rispetto per tutti, però sentite il signor Ingroia, no? La presentazione, che stai facendo, David? Scusami, che stai facendo? David, cosa diavolo stai facendo? Scusami. No, sto trovando una postazione fissa dalla quale chiamarti. Ma siamo in diretta, cioè siamo in diretta. Io lo so, ho sentito la sigla. Beh, no, tanto così, se vuoi, se consenti, cioè, se è possibile. No, no. Se per te va bene, no. Ingroia, sistema economico da rivoluzionare. Il programma è maggiore equità sociale, rivedere, riformare, rivoluzionare il sistema economico che in questo momento è ingiusto e che ha impoverito il ceto medio, ha reso ancora più poveri i poveri della società e che ha arricchito troppo i ricchi. Imposta patrimoniale, meno tasse per i più deboli, più tasse per i più ricchi. Adesso Sgarbi è con Intesa Popolare. Intesa Popolare. Sono la voce di Intesa Popolare. Non so chi ci sia. Credo l'onorevole Catone. Intesa Popolare. Io sto Scusami, Catone, sto per spaccare Catone. Tutto. Intesa Popolare. Che c'è? Sì, Catone, quello della discussione, eccetera, eccetera, sì. Sì, quello della discussione, adesso ha chiuso anche quell'ottimo giornale. No, non credo che abbia chiuso, non credo. Sì, sì. Ma no, perché vuoi buttare sul lastrico decine e decine di persone, forse troppe? Sentiamo. Io no, ma un giornale sentiamo Sgarbi. Sì, sì, lo so, si sa. Allora ti posso raccontare la mia bizzarra vicenda. Io ho lavorato in maniera molto determinata per mesi a un partito della rivoluzione che ho in qualche modo collegato a un singolare personaggio modenese che si chiama Samorini. Non perché avessi delle affinità con lui, che posso avere con qualunque altro essere umano, ma perché aveva fatto Moderati in rivoluzione. Poi qualcuno, Ilvo Diamanti, gli ha detto che la parola rivoluzione respinge l'elettore. E lui allora ha ridotto piccolo piccolo il nome, l'ha chiamato Mir, che non sappiamo cosa sia, e ha messo il suo nome sotto, non potevo stare ospite di questo. Allora ho trovato un gruppo di disperati che si chiamano Intesa Popolare, che avevano bisogno di un portavoce, ma siccome non potevo portare la loro voce, che non c'è, mi chiamo La Voce. Io sono La Voce di Intesa Popolare. Intesa Popolare. Mi rende isterico. Intesa Popolare, disperati di Intesa Popolare. Ma, ciao. Ma stai parlando con qualcuno o ci sei? Non ho capito. No, no, sono con te. No. Il fatto che sia in genere gente che saluta, ad esempio, cioè qui vuoi che ti presenti. No, non me ne frega niente, guarda, non me ne può fregare. Non me ne può fregare di meno. Non me ne frega niente, Sgarbi. Basta! Ecco, bravo. È meglio lavorare. Sgarbi, voto Sel, ma sono candidato al PDL. Un'altra follia di Sgarbi. Trovo che nel programma di Sel e anche nel discorso dell'altro giorno di Vendoli ci sono molte cose degne di molto rispetto, e anche su Monti, su tutto. È stato molto bravo, molto efficace nel dire, anche se io ho un'antipatia per lui relativa solo alle paleoliche con cui ha appestato la confusione politica in Italia. Quindi, insomma, quindi una parte del mio voto va al Vendola. Poi io probabilmente sarò candidato col PDL, no? Ah sì? Sì, perché mi piacciono le cattive compagnie. No, questo ce ne eravamo accorti. Quindi io mi muovo su tre o quattro fronti, Moderati, c'è picca, posso stare in un solo partito, troppo stretto un partito solo per me. Intanto Monti pochi minuti fa ha detto spero che Berlusconi non vinca. Spero che Berlusconi non vinca. Vabbè, ma per forza, adesso voglio dire, sembra una notizia clamorosa. Ma questo no, è però non ha detto sì. Spero che Bersani non vinca, ha detto spero che Berlusconi non abbia possibilità di vincere. Ma per forza, ma perché Berlusconi è quello che tra l'altro gli ha tolto inizialmente, tu dirai non gli ha tolto mai la fiducia. Capito, ma devi. Non ho detto questo, dico semplicemente. C'ha un conto quando sospeso, uno dice spero che Berlusconi non abbia speranze di vincere, e insomma dice qualcosa di. Ma è chiaro che lui è più vicino a no, Bersani che a Berlusconi, sì. Questo stiamo dicendo delle banalità che mi viene a vomitare quando le dico, però e appunto, e siccome sono delle banalità, mandiamo i titoli del TG3. Ecco, però è ovvio che è così. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bersani, Monti dica contro chi combatte, è possibile la collaborazione con il centro dopo il voto, il premier prematuro parlare di alleanze. Berlusconi attacca le toghe per la sentenza di divorzio da Veronica Lario, giudici donne, femministe e comuniste, il tribunale di Milano basta di leggi. L'IMU fa volare le entrate fiscali, migliorano i conti pubblici ma crollano potere d'acquisto e consumi mai così male dal dopoguerra. La relazione del presidente Pisano all'antimafia e i vertici istituzionali non sapevano, ma ci fu convergenza tra mafia e pezzi dello Stato. Per mancanza di posti letti, i pronto soccorsi di Roma trattengono le lettighe delle ambulanze. L'allarme del direttore del 118, il ministro chiede chiarimenti. Una compagnia americana di contractors accusata di torture nel carcere iracheno di Abu Ghraib risarcisce 71 detenuti, oltre 5 milioni. In caso di cori razzisti allo stadio, la polizia può sospendere la partita dopo il caso Boateng. In vigore una procedura prevista ma mai applicata. No me moleste moschito. Una volta trovare l'ex sindaco di Milano Albertini, nonché europarlamentare del PDL, adesso non più del PDL, era molto semplice. In questi giorni è una cosa molto complicata. È una cosa molto molto complicata. Però è qui tra noi, caro Parenzo Albertini, buonasera. Oh, pronto, buonasera. Sono in Afghanistan. Ma come, in Afghanistan? Ah, è la russa. Abbiamo sbagliato numero, è la russa, no, è la russa. Albertini non lo voglio più vedere, sta con gli altri. Noi siamo i fratelli di Lombardia, Ah, allora ha accettato il diktat di Maroni, che non vuole Fratelli d'Italia, ma vuole Fratelli di Lombardia. Fratelli di Lombardia, mi piace questo nome, mi piace. A lei no, Bruciani. Beh, insomma. Chiamola Santanché, cosa pensa la Santanché? Chiamola a lei, chiediamolo. Scusi, Danielina, cosa pensa di Fratelli d'Italia? Lombardia, va bene Lombardia, allora va bene Lombardia. Va bene Lombardia, ma scusi, ma lei basta che Maroni dice una cosa, cede subito. Mi piace il cognome di Maroni, è una cosa proprio militare. Mi ricorda quando ero ministro della difesa con due Maroni così, bravi i nostri soldati in Afghanistan, bravi. Alvertini, come sta? Io non capisco se lei si sta preparando un altro lavoro oppure... appunto non so come va il primo, che... sa, qua siamo in difficoltà. Scusi, lei è europarlamentare, europarlamentare, candidato a governatore della Lombardia. Candidato adesso al Senato, fa un grande girare, chiacchiera, parla, racconta, insomma si fa conoscere, però insomma può anche gavitare l'elica. E poi candidato al Senato, allora ci dia questa notizia, candidato sarò... Non lo so, se la date il Presidente, io do il mio assenso, però... Se non l'ha data, io... No, l'ha praticamente data, sulla conferma. Lo sanno tutti ormai. È così, lei è candidato al Senato con Monti. E anche Parenzo, buonasera Parenzo, non l'ho sentito. Buonasera, Albertini, ci può dare questa notizia? Ci può dare questa notizia? Io non la do la notizia, posso solo... Se l'ha data il Presidente Monti, io posso commentare, ma dopo che lui l'ha data, se no prima... Comunque, gliel'ha chiesto però. Noi militari siamo ligi al protocollo, il comandante deve dire, noi diciamo signor sì, è questo che succede. Gliel'ha chiesto Monti, Albertini, gliel'ha chiesto o no? Questo lo lasciamo dire a lui. No, ma scusi, ma adesso non è che... La consegna del silenzio, siamo dei militari. No, ma questo glielo può... Siamo gesuiti, quindi siamo i militari della Chiesa. I carabinieri stanno all'Italia come i gesuiti stanno alla Chiesa, quindi... Noi siamo stati allievi, stiamo al nostro posto, aspettiamo che il comandante dica. Vabbè, gliel'ha chiesto, su Albertini gliel'ha chiesto, adesso non giriamo intorno alle cose, perché sennò... Non confermo e non smentisco, con questa frase noi ce la caviamo sempre, non confermo e però, non smentisco. Scusi un attimo, però mi può dire una cosa, se dovesse essere candidato si dimette oggi stesso dal Parlamento Europeo, o domani quando sarà, subito? No, c'entra assolutamente, non c'è O dopo si dimette dal Parlamento Europeo, dopo le elezioni? L'incompatibilità prevede che se c'è un'elezione in due ruoli istituzionali che sono incompatibili si debba optare per l'uno e per l'altro, ci mancherebbe questo. No, quella è optare, però lei... Questa è la regola della incompatibilità. D'accordo. Però in questo caso non c'è l'ineleggibilità come avverrebbe... No, ma quello lo sappiamo. Però la cosa che voglio... Non niente fino a quando non sono eletto da una parte... Beh, ma scusi, però sarebbe una mossa elegante se lei si dimettesse prima. Tanto comunque sarebbe in Senato... Sarebbe una mossa assolutamente inutile e assolutamente incongrua, perché non è in questo... Però lei tanto sarà eletto al Senato, molto probabilmente sarà eletto, anche se... Quando sarà faremo quello che... Comunque, prima non si dimette da parlamentare europeo, no, sicuramente... No, perché è come se... No, se lei è assunto, non so, da Radio Popolare, si dimette. Mi sembra molto difficile. Da Radio Popolare, mi sembra molto difficile. Si dimette adesso. No, ho capito, non è la stessa cosa, Albertini. Adesso lavora per Radio 24, no? Allora, Mediaset, l'assume Mediaset. Beh, lei si dimette da Radio 24 quando viene assunto da Mediaset, non prima, no? Sì, d'accordo, però... La stessa cosa è per noi. Ma non è la stessa cosa, su, Albertini. L'incompatibilità ne bis in idem, però non il ruolo di candidato non prevede le dimissioni. No, ma lo so, ma questo lo so, non c'è un obbligo di legge, certo che non c'è un obbligo di legge. Ma non c'è neanche un obbligo morale di nessun No, ma però lei è contemporaneamente parlamentare europeo, candidato in Lombardia e candidato al Senato. Non è un pirla. Ma no, non sono un pirla. Dica non sono un pirla, siccome non è un pirla, io si dimette comunque. Lo dica, non sono un pirla. Non dico parolacce, le lascio dire a voi. E che pirla è una parolaccia. Solo quella roba lì, ecco, diciamo. Non è un pirla, non sono un pirla. L'ha detto. Però non lo ripeto. Non lo ripeto. Siamo parolacce. Senta, qualcuno dice lei si candida al Senato perché è un paracadute, sa di perdere in Lombardia, resta comunque la candidatura al Senato con Monti. Questa è una lettura malevola e molto superficiale. ci può la stare, lettura però vera è che è esattamente per sovrapporre la lista Monti in allora Lombardia, allora è vero, alla lista Monti al Senato in Lombardia. Allora cioè, è vero, allora è vero. No, questo io parlo astrattamente. Ah, astrattamente. Lo certo stesso candidato, ma soprattutto sì, lo stesso progetto e sì, la stessa appartenenza, la condivisione del programma e l'insieme della nostra coesione si lega anche con queste caratteristiche che abbiamo detto. Addirittura si avrà lo stesso marchio tra sì, molto probabilmente non è ancora concluso lo stesso marco tra al Senato del presidente Monti e quella nostra. Vabbè, allora facciamo un'ipotesi. Se Monti glielo dovesse chiedere, a parte che gliel'ha già chiesto, eccetera, lei parla in astratto. Sarei molto onorato di questo, non nego di essere un montiano di ferro, di essere molto come i tacceriani di ferro di una volta. Sì. Bene impressionato, più che ammirato e dal governo per come ha agito, per come ha salvato l'Italia dal baratro finanziario e poi per lo stile dell'uomo, la sua sobrietà, la sua superiorità intellettuale e morale. Adesso questo non faccia quello che penso di Mario Monti. Lei però non passi dagli elogi che faceva Berlusconi agli elogi adesso che fare confronto di Monti. Non ho mai fatto elogi di questo genere a Berlusconi. Ah, ne fa di più a Monti. Ne fa di più a Monti. Ho sempre apprezzato la sua simpatia, la sua grande e straordinaria capacità imprenditoriale e anche le sue qualità politiche. Tant'è che l'ho approvato in tutti gli anni in cui siamo stati. Ma qualche barzelletta Monti la racconta ogni tanto? Sì, però non le stesse che raccontava Berlusconi. Adesso non so se potrò più raccontarle perché non credo che mi sia molto più amico. Io sono amico suo, ma non credo che sia contraccambiata l'amicizia. No, ma dico, Monti le racconta ogni tanto qualche barzelletta? La racconta, sì? No, qualche barzelletta credo di averle raccontate, ma non dello stesso genere che immagino siano gradite al presidente Berlusconi. Senta un attimo, ma Formigoni non capito, magari più british. Non ho capito Formigoni, gli ha dato, insomma, si sta per preparare una coltellata alle spalle nei confronti di Albertini, perché insomma, fino all'altro giorno brutali. Lei sa bene, lei è esperto di storia, conosce benissimo la storia anche romana, sa benissimo che queste cose ci sono in politica. Fino all'altro giorno la appoggiava, adesso molto probabilmente per una poltrona, chiamiamola così, per un seggio, ma è legittimo, per un seggio al Senato, non so dove, alla fine... No. Lei sta banalizzando banalizzando. Un po' superficiale, ma la politica è questa, dire, ingeneroso nei riguardi di Formigoni. Formigoni ha fatto una scelta molto coerente fino a questo momento di appoggiare la mia candidatura, poi si è reso conto che questo rapporto contro natura, come l'ha definito Maroni, sta avvenendo ed evidentemente per non essere nel lato passivo del rapporto contro natura si è seduto su qualche sedia dove sta più comodo che invece mi faccia capire qualcosa che si muove in giro, insomma. Ah, ecco, è più comodo. L'analogia è, non me la faccia spiegare di più, però chi ha capito ha capito, chi non ha capito rimane nel dubbio di quello che ho detto. Cioè, per non essere nella parte del rapporto contro natura, cioè è un lato passivo e un lato anche nel rapporto contro natura. Tutti si evita di essere nel lato passivo, diciamo. Però lui si accomoda su una poltrona contro natura, quello. Definizione di Maroni, mi raccomando, mi citi sempre la fonte perché non voglio essere... Però non ho capito, dunque lui si accomoda su una poltrona in ogni caso, comodamente su una poltrona, diciamo la verità. È probabile che sia così, ma non voglio banalizzare neanche questo, perché è un progetto politico che... quello. Però resta col PDL alleato con la Lega, resta col PDL alleato della Lega, questa è la realtà. Allora, c'è chi come noi esce dal PDL e rimane... Ma non si sente PDL tradito da Formigoni? Non si sente un po' tradito lei, o no? No, guardi, se c'è un... non voglio usare questo termine, tradimento. Se c'è, diciamo, un cambiamento di prospettiva, una scelta molto contraddittoria, c'è più nel presidente Berlusconi del 9 ottobre e del 27 ottobre. Cioè, a Palazzo Grazioli... Cioè, Formigoni sta zitto e si accomoda di lato. Ha detto, mi lasci finire, perché non voglio lasciare in sospeso... No, ma lo so, ce l'ha già detto, non è modesto, non è modesto. Il presidente Berlusconi dice lascio il partito come padre nobile, saranno eletti e non nominati i miei successori attraverso le primarie. E poi c'è quello di Il governo Monti ha fatto un buon lavoro in situazioni di emergenza, potrebbe fare meglio in una situazione più di prospettiva di legislatura. Monti è così bravo che lo candido a essere il leader dei moderati. Il 27 ottobre dice non ci sono più le primarie, ritorno io, Monti ha sbagliato tutto, ci mettiamo con la Lega addosso alla Merkel, usciamo dall'euro, per semplificare. Mi rendo conto che siano due posizioni inconciliabili. Eccoci qui. Allora, Albertini, diciamo... Ma io non ho capito una cosa da Albertini, scusa. È sempre la russa. Ho chiesto la Daniela, ma c'è Albertini con chi sta? Con noi, con i talebani, con chi? Danielina, lo sai tu con chi? Ma ogni volta intercettiamo la russa invece di Albertini, ma com'è possibile? Sti telefoni non funzionano. Ci sono ancora i vecchi telefoni del PDL, i vecchi telefoni del PDL. Ah, è lei Albertini. Il ministro più bravo d'Europa non può essere peccato facendo solo il ministro. Ah, certo. Per questo devo dire, la Lega è stata brava. Certo. Mi ha candidato a premier. L'Italia ha bisogno di leader. Finalmente c'è il vero leader. Ma che ne pensa di Albertini che si è messo con Monti? Ma guardi, Albertini non voglio neanche sentire parlare. È un amministratore di condominio veramente fallito. Addirittura. Neanche il mio di condominio. Glielo farei fare. Guardi, mi dà anche fastidio perché dicono che cerca imitarli, ma non è neanche bravo a fare la voce. Comunque, secondo me, mi infastidisce, non voglio parlare di Albertini. Proprio non vuole sentire buonasera, parlare. Buonasera Cruciani. Buonasera. Scusate, mi assume come dittatore, dittatore del governatore, qualcuno può pensare. Secondo lei sta sparando le ultime cartucce, perché una volta che sarà senatore con Monti, forse essere molto seri, secondo molto me Loden, è tutto finito, sì, è tutto finito, lo stile è l'uomo, lo annuncio, però potrebbe essere una notizia questa qua, non farò se sono eletto il fioretto che mi chiedeva qualcuno Qualcuno gliel'ha chiesto di non fare più le imitazioni? No, mi ha chiesto di fare un fioretto come hanno proposto altri governatori dalle abitudini diverse dalle mie, si ricorda? Certo. La castità completa se divento governatore. Sono già casto adesso, quindi che altro posso fare? Però mi dica una cosa, continuerà a fare le imitazioni anche se diventa senatore con Monti, sì. Governatore... Ma certo, ma chi è che smette di fare le imitazioni? È una cosa che mi diverte moltissimo, come andare sull'F-104, bellissimo. La barriera del suono, stupendo. Ma gliel'ha fatta qualche imitazione a Monti o no? E non riesco a farlo Monti, bisogna che lo studi. No, bene. A Monti, davanti a Monti. Gliel'ha fatta? Davanti a Monti credo di avergli fatto un pezzo di Tremonti, forse gli ho fatto la battuta del Monti Tremonti, leader tre volte leader, 3L, quel silogismo intelligentissimo di Tremonti, e credo che l'abbia apprezzato, sì, credo che l'abbia apprezzato. Ma allora scusi Albertini, diamo una botta definitiva alla sua candidatura al Senato, chiamiamo ora il cellulare Monti facendo finta di essere Tremonti e gli diamo una botta definitiva alla sua candidatura al Senato, così ce la giochiamo definitivamente. Vabbè, comunque io dico una cosa, diamo l'ufficio. Monti candida Albertini al Senato è proprio impazzito, veramente non si capisce, l'IMU, poi tutte le tasse, adesso amministratore di condominio fallito, senatore, guardi, l'Italia è veramente sull'orlo, anzi è già dentro il baratro. Vabbè. Ecco, questo potrebbe essere il commento. Potrebbe essere il commento, sì, certo. Eventuale candidatura. Senta, ma allora ci possono essere tre candidature insieme al Senato, Ichino, Mario Mauro e Gabriele Albertini, è possibile? Potrebbe essere. Sarebbe proprio, no? Lo chiede a Monti, però, sarebbe una bella, no? Una bella pattuglia, no? Che dice? Potrebbe essere. Ma lei si vede più capolista? Non mi faccia dire quello che non conosco e che non... Allora, poco fa Monti... Proporrei l'ordine alfabetico, ecco, questo sì. Proporre l'ordine alfabetico. Interrogati a scuola, almeno adesso c'è qualche vantaggio. Per cui Albertini, Ichino, Mauro, giusto? Ecco, forse l'ordine alfabetico viene anche bene, no? AIM. AIM. Diventa Associazione Interessi Metropolitani, ecco, è un acronimo che può funzionare. nazionale. Un po' inquietante anche, volendo. Associazione Interessi Metropolitani. Ecco, questa è una proposta interessante, potrebbe, suona bene, no? Albertini, Ichino, Mauro, potrebbe essere, no? Un tris, un tris. AIM. Scusi un attimo, Albertini, però poco fa... Che poi all'inglese potrebbe essere anche AIM, che insomma ha un bel auspicio, no? Beh, certo, come no. Scusi un attimo, però Albertini, diciamola tutta. Poco fa Monti ha detto, preferisco, guardi, adesso gliela leggo testualmente, se no lei mi dice che dico stupidaggini. Spero che Berlusconi non abbia speranze di vincere. Anche lei lo dice dunque, dicendolo Monti. Spero che Berlusconi non abbia... Anche lei spera che Berlusconi non abbia speranze di vincere? Io non spero che Berlusconi non abbia speranze di vincere. Allora non è montiano. Spero che Berlusconi abbia speranze di vincere e che siano smentite dalla realtà, perché vinciamo noi. No, è d'accordo, però ti anche... concedo la speranza, ci mancherebbe, non lo odio. Però spera che Berlusconi non vinca le elezioni. Ma di questo sono sicuro, non è che lo spero. È una delle poche certezze che si possono avere insieme alle cambiali, alle tasse e altre cose più brutte. Cioè sarebbe una iattura per l'Italia, una diciamo la verità. Totale. No, non è una iattura, è impossibile. Regalo una Ferrari anche a lui, oltre a Maroni si diventa governatore della... Così Montezemolo si prende tutti i miei risparmi, sono già 4 le Ferrari che ho promesso. A proposito, scusi, lei è in grado di pagare una Ferrari a Maroni? Se deve comprare 4 Ferrari? Sì, sono in grado, ho qualche soldino, sì, non tanti, ma insomma... Guardi che la Ferrari a Maroni, non dico che... però potrebbe essere, attenzione, potrebbe essere. La scommetto, vuol dire che sono abbastanza sicuro che non succeda. Che non succeda. Certo, poi vale anche per lui, però cioè, non ha ancora accettato la scommessa. Lei resta candidato in Lombardia? Ah, su questo posso rispondere sì, assolutamente. Assolutamente certo. Sì. Qualcuno dice che candidato lei in Lombardia e candidato anche al Senato fa un po' il gioco di Berlusconi, perché Bersani rischia di non vincere il premio di maggioranza in Lombardia. Noi puntiamo a un governo Monti, non a un governo Bersani, quindi se ha qualche difficoltà a comporlo, soprattutto se deve realizzare l'agenda Europa e con Sel e Vendola che fa il referendum per ritornare all'articolo 18, se non c'è un aiuto, diciamo, di europeisti convinti, non credo che possa farcela. Quindi ben venga questa zoppatura di Bersani, perché poi consentirebbe all'Italia di avere un governo capace di realizzare i compiti che l'Europa, per rimanerci, chiede all'Italia. Però adesso mi dica la verità, stiamo parlando dell'Italia più che della Lombardia, poi le faccio una domanda anche sulla Lombardia. Vede più possibile una collaborazione con Bersani piuttosto che con Berlusconi? Con il Berlusconi del 9 ottobre, quello di Palazzo Grazioli, la vedo con Berlusconi di adesso. Con il Berlusconi di Villa Gernetto credo che sia impossibile per chiunque, se non per Maroni. E dunque dopo le elezioni È diventato un partito talmente anti-europeo e demagogico e populista da non essere, diciamo, sicuramente il partito dei moderati. Vabbè, lei si vede in questo momento, lei è più vicino a Bersani che a Berlusconi, diciamola tutta. Sente più vicino a Bersani che a Berlusconi. Dire cose che sono un po' fuorvianti. È quello che voglio far dire. Però in questo momento la politica e l'immagine e l'azione del PDL non è compatibile con la sua storia o con gli obiettivi e gli orientamenti che ho conosciuto. È un'ultima cosa è questa. Perché sono passato con un'altra parte politica che si identifica nel Partito Popolare Europeo. Allora, però è più vicino, è più facile collaborare con Ambrosoli che Maroni. Che con Maroni? Come persone penso proprio di sì, anche se non conosco bene Maroni, per cui non posso dire, magari se lo conoscessi meglio come Ambrosoli. Cioè, se ci fosse un ballottaggio, non c'è, ma perché la legge elettorale è diversa, se ci fosse un ballottaggio Ambrosoli-Maroni, lei per chi voterebbe? Mi dica la verità, nient'altro che la verità. No, io le dico la verità, ma per dirle la verità devo conoscerla, cioè devo conoscere bene. Ci fosse un ballottaggio Ambrosoli Maroni alla regione Lombardia, lei chi vota? Non risponda a domande così, mi perdoni, non voglio essere offensivo nei suoi riguardi, così superficiali. Mi lascio conoscere le situazioni e poi le posso dare una risposta. Ma io lo so benissimo lei per chi voterei. No, ma lei è se vuole che le dica riga. Che conosco meglio Ambrosoli di Maroni e che apprezzo Ambrosoli, che lo stimo e che lo considero una persona splendida con cui poter collaborare non solo al governo della Lombardia ma anche in altre situazioni, questa è la verità. D'altro canto posso dire che anche con Maroni, quando è stato ministro del welfare e io sindaco, abbiamo fatto degli accordi importanti. Parenzo, che volevi dire? sviluppato. No, ma voglio dire che a Marco Biagi ha lavorato per tutti e due prima di essere ammazzato. No, ma non capisco la titubanza di Albertini, visto che diciamo Monti stesso è una questione. No, ma Monti stesso è più vicino evidentemente a Bersani che non a Berlusconi, questo è chiaro. Conoscere la realtà. No, ma Monti stesso con cui lei sta... Monti stesso oggi, con la dichiarazione di oggi, si è dimostrato più vicino a Bersani che non a Berlusconi, ma diciamo una roba ovvia. Ma anche che... lui l'ha detto, e in questo momento... Lui più... stesso, lui! Va bene, allora complimentarci con lui, se ha detto queste cose gli fa piacere. Senta, ma la Lega è quella dell'assessore che fa i burazzisti? Non lo so, non conosco, c'è un assessore che fa i burattisti. Non ha seguito, scusate, lei? Ma non seguo tutte le cronache. Beh, che è candidato lombardino. È una cosa lombarda. Scusa, questa cosa mi è la vicenda di Bustarzizio. La vicenda di Bustarzizio. No, questo ne ho sentito parlare. Sì, ci sono. Uno, di quelli, coinvolti, partita, uno no? di quelli coinvolti pare di quelli coinvolti sembra essere un assessore della Lega di un paese. Si sarà scusato, non so, avrà avuto un provvedimento disciplinare dal suo partito. Qualcuno l'avrà redarguito per questo, penso. Sì, che naturalmente hanno detto che è un cretino. È ovvio, hanno detto che è un cretino. Maroni ha detto che è un cretino, cioè chiunque abbia fatto dei burazzisti è un cretino, ma lui... Ecco, io non dico queste cose, però certo non mi riconosco in questi comportamenti, sono assolutamente censurabili. Va bene, Alberti... Il codice etico nel partito dovrebbe essere applicato a fatti del genere, come mi pare sia successo a Borghese, no? È stato sospeso per 3 mesi dalla Lega, per espresso comprensione per il... Signor Breivik, la strage in Norvegia. Sì. Esatto. Lì la cosa era molto più grave, certo, però anche in questo caso. Berlusconi continua a dire che lei ha solo ambizioni personali, ma non è male avere ambizioni, però in realtà. Soprattutto è male attribuirmele, perché Berlusconi sa bene che non è certamente questa la motivazione. Ma ha insistito a chiederle la candidatura, a chiedere se si vuole candidare al Senato, offrirle. Ha insistito come per qualsiasi altra cosa che non riesce a ottenere subito. Cioè? Come ha insistito? Ma, semplicemente confermando. Quante telefonate le ha fatto? Quante telefonate le ha fatto? Io ritiri la candidatura, l'ha fatto più volte con insistenza e anche, devo dire, con... caccia, nel senso che sa toccare i tasti giusti della psiche umana. Addirittura non sarebbe l'imprenditore di successo se non fosse stato capace, e anche il politico di successo, di conoscere le persone. E oggi di ha detto che ieri, certo, ieri ha detto che i giudici che hanno deciso, le giudici donne che hanno deciso, sono delle femministe comuniste. Ha sentito, sì. Quelle che hanno deciso. Che c'è anche una mia ex fidanzata tra quelle che hanno deciso. Non ci posso credere. Sì, ma chi è? Chi è tra le tre? Adesso non faccio nome perché non voglio essere pettegolo, però una delle tre. Ma l'ha già fatta, Albertini. Una mia ex fidanzata. Ma questa è una notizia. Sono ancora in rapporti di affettuosa amicizia con mia moglie, con suo marito. Li ho anche sposati, nel senso che ho celebrato il loro matrimonio. Cioè, ma chi è? Gloria Servetti, Nadia dell'Arcipreto o Anna Cattaneo? La terza che hai detto. Anna Cattaneo. Siamo al top qui. Una deliziosa persona con cui ho ancora un rapporto di affettuosissima amicizia. Come ripeto, comunista? È comunista? Non mi ha mai, pensi che perfezione, non mi ha mai detto, pur incontrandoci abbastanza frequentemente appunto con suo marito, mia moglie, che aveva... insomma, ci sono dei giudici anche che hanno rispetto per la deontologia. Non mi ha mai detto che aveva in carico la questione Berlusconi, pensi un po'. Incredibile, ma scusi, ma è comunista? Assolutamente, assolutamente. Ma è comunista allora, siccome Berlusconi ha detto che... Assolutamente, anzi è vicinissima a noi, ha sempre votato per me ed è molto vicina alle nostre posizioni, una persona moderata, molto liberale. Addirittura ha votato per Berlusconi dunque? Forse in qualche frangente, non so se per lui, certamente se ha votato per me, ha votato per il partito, per il PDL, per il PDL, ma allora è paranoico, diciamolo chiaramente, è un po' paranoico alle volte. Femminista la Cattaneo? Voi siete tremendi, ma è femminista questa Cattaneo allora? Scusa, lui ha detto non è femminista, è una bravissima persona, una bellissima donna, molto brava nel suo lavoro, una brava mamma e una persona di cui ho una grande stima. Per cui è indegno dire che è femminista e comunista? Non è indegno, ma non le si può attribuire niente del genere, né l'una né l'altra cosa. Grazie Albertini, a presto. Prego, vi ringrazio io. A presto. Well, now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, a bitey, whitey, white, sir. Yes, I'm nature's mosquito. I'm gonna go bite, yes, bite, bitey, whitey, white, sir. That's what he even told me. Sebastiano da Treviso, buonasera. Buonasera, salve, signor Cruciani. Volevo intervenire a proposito di quanto ho sentito sul vitalizio di Sgarbi. Molto spesso sento parlare di vitalizio e in qualche modo si parla di in termini di diritti acquisiti. Volevo semplicemente sottolineare che il vitalizio non è un diritto, bensì un privilegio che i nostri parlamentari si sono garantiti a nostre spese, chiaramente. E quindi in una situazione economica del genere non mi sembra il caso di farne un dramma così come molto spesso avviene. Ecco, tutto qui. Poi, se mi è concesso dire qualche altra piccola cosa, volevo sottolineare come i tecnici diventano immediatamente politici nel momento in cui assaporano il potere. E il signor Monti, che doveva non candidarsi, ha scelto di farlo. Ma guardi, che io non ho mai detto che era una finzione questa qua dei tecnici. Ci sono sempre decisioni politiche che vengono prese. Sicuramente, no, ma non sono asettiche. Tuttavia, diciamo, trovo che sia stato ingeneroso nei confronti del capo dello Stato quando questi ha appunto affermato che non si sarebbero mai candidati. Dopo un anno, come avviene sempre in politica, le cose dette prima non valgono dopo. Tutto qui. Grazie. Raffaele da Milano, buonasera. Sì, buonasera a tutti quanti. Beh, Parenzo, però la notizia è che uno dei tre giudici, io la parola giudichesse la trovo insopportabile, tre giudici, però non si può dire i tre giudici, le giudichesse, ma che vuol dire? Giudichesse è tremendo come termine, le tre giudichesse, tre giudici, tre magistrati, donne, perché bisogna specificare tre magistrati donne? In questo caso è importante naturalmente, però magistrati... No, è importante perché per due motivi, che lui no, ma è importante in questo caso, è chiaro, ma è importante in questo caso. È una vendetta di donne per solidarietà alla donna, a Veronica, vedi che bello, di donne per solidarietà alla donna. C'è Veronica e poi c'è un complotto comunista di tre donne, evidentemente. Allora, le tre donne, Gloria Servetti, Nadia dell'Arcipreste, Anna Cattaneo, una delle tre si chiama Cattaneo, Anna Cattaneo è stata una fidanzata del signor Albertini, vi rendete conto? Con cui ancora in ottimi rapporti, e ci sta dicendo: ma quale comunista e quale femminista? Ha votato per me, ha votato PDL, persona sì, moderata. È bella questa storia che Albertini ha avuto una fidanzata magistrata. Questo è molto bello perché sottolinea la legalità di Albertini. No, è bello perché sottolinea l'attenzione alla legalità di Albertini. Ma che vuol dire? Bello. Ma che cosa c'entra? No, è molto bello. Anch'io ho avuto delle fidanzate via magistrati e non. No, tu hai avuto fidanzate che sono criminali, cioè uno si ha un profilo, no? Dice il profilo, come sarà la fidanzata incrociata? Uno come se la immagina? Fai un sondaggio ai radioascoltatori, no? Berlusconi ce lo vedresti mai fidanzato che so io con un ottimo magistrato? No, mai. No? Con un poliziotto, adesso uno no, per la legalità, no, mai. È evidente, no? Vabbè, fammi sentire Raffaele da Milano, non continuiamo su questa strada. Raffaele. Sì, buonasera. Ma stai messo male ancora, Raffaele, dica. Malocchio, numero uno. Che se poi è dispregiativo, sembra, è una parola dispregiativa. Niente, volevo solo dire, Albertini mi sembra un po' l'emblema della politica italiana, no? Cioè? Mi sembra, cioè, eletto al Parlamento Europeo col PDL. Adesso, qua in Lombardia con chi è candidato? Con Monti. Lombardia con Monti. Vabbè, ma sta facendo una scelta politica, quella di passare da Berlusconi a Monti, ma non è una novità. Cioè, No, ma io infatti non ho detto che è una novità, però è l'emblema politico di tutti di come si comportano i politici. Che hanno la faccia come il culo e il culo come la faccia. No, guarda, però non mi tocchi Albertini perché. No, per l'amore del cielo, chi lo no, vuole. No, poi può dire quello che vuole in questa trasmissione, no, ognuno no, può no, dire quello no, che no, vuole. Ma senza offesa, tanto è una cosa generale. Io non è che ho detto che Albertini abbia la faccia. No, ha detto che ha la faccia come il culo. No, tutti i politici, tutti quelli che... Lei pensi un attimino a Fini, scusi, adesso è con Monti che Monti guarda verso sinistra. Quello vuol dire che alle prossime votazioni ce lo troveremo Bersani e Fini assieme, allora, le prossime votazioni. Cos'è quello? Può essere, può essere. Perciò mi sembra... mi sembra l'emblema proprio della politica attuale. Poi che uno cambi idea, ma a me mi sta bene, benissimo, però è l'ipocrisia che dà fastidio, capisci? È quello che dà fastidio agli italiani. Il fatto che stiano seduti su queste poltrone da 20.000 euro e poi non risolvono i nostri problemi. Loro possono benissimo cambiare casacca, sì, possono benissimo... Sì. Capisce? Cioè, ma sono i problemi che va risolto, non va bene. Ho capito. Daniele da Padova, buonasera Daniele. Buonasera. Dica. Luciani, in parole povere mi riallaccio al precedente radioascoltatore e volevo praticamente esprimere lo stesso parere, nel senso che anche per me Albertini è un lecchino in parole povere e si sta riciclando alla grande. In che senso, scusi? Si sta riciclando perché l'importante è cadere sempre in piedi, nel senso che adesso il Parlamento europeo, se le cose gli vanno bene si avvicina, quindi o va in Lombardia a fare il governatore oppure va a finire a fare il senatore a Roma, quindi lui alla fine il suo stipendio lo porta a casa. Problemi zero, insomma. Però non si interpreta tutto in questo modo, Daniele, Davide, cioè non è che si può interpretare tutto in questo modo, cioè quello è un paraculo perché si garantisce di qui, si garantisce di là, c'è pure gente che fa attività politica perché insomma serve qualcuno che faccia attività politica o no? Sì, d'accordo, ma bisogna essere coerenti, bisogna avere anche il coraggio delle volte di tirarsi fuori. Quando uno, cioè, uno ci può riciclare. Ma perché uno si deve tirare fuori quando si vuole impegnare per un progetto politico? Mi scusi, perché uno si dovrebbe tirare fuori? Guardi che le assicuro che sono gli altri, gli scandali, non è Albertini che passa da Berlusconi a Monti, Albertini può essere, si può discutere. Che cos'ha che non va Albertini? No, da quando era con la Lega era una persona che mi piaceva, scritta, però alla fine è come l'acqua, ha scelto la strada più facile. Più facile non direi, cioè, mica detto. Non è mica detto. Adesso è facile schierarsi con Monti. Ma non è vero, ma guardi i sondaggi, che non è vero che è facile schierarsi con Monti. Chi lo dice? Chi lo sostiene? Non è così. Liliana, provincia di Savona, buonasera. Buonasera. Allora, vada. Buonasera. Io le sto telefonando perché sono nata nel 1952. Sì. E la signora Fornero piange perché ha un buon posto di prestigio. Io invece piango perché sono riuscita ad andare in un prepensionamento con una legge di rottamazione tanto declamata anche dal Sole 24 Ore, la legge 2 del 2009. Sì, però scusi Liliana, adesso di che vogliamo parlare? No. E sono stata dimenticata dalla riforma Fornero. Va quindi bene. Io sono senza lavoro e senza pensione. Benissimo. E ci sono un mucchio di persone, penso, in Italia come me. Sì. E questa gente sanno cosa vuol dire andare a elemosinare nemmeno 500 euro al mese quando cominciamo a parlare di lei è in pensione, Liliana, è in pensione lei? No, io non sto percependo più né pensione e né niente, praticamente nulla. Non ho il lavoro e non ho la pensione. Cioè lei è una di quelle che si chiamano esodati? No, io sono dimenticata. Dimenticata da chi, scusi? Perché non ha la pensione lei? Dalla legge Fornero e dalla legge Vabbè, Monti. Vabbè, troppo complesso, sono adesso non lo possiamo spiegare adesso in due secondi. No, lo spieghi nel dettaglio, che è bellissimo. Ma quale è bellissimo? Dettaglio. È una noia tremenda. È una noia tremenda, è una noia tremenda. Io mi annoio terribilmente. Ma protesti, vado a protestare da qualche altra parte. No, non è una protesta. La mia non è una protesta. E che cos'è? Io sto dicendo che la Fornero si è dimenticata di tutti i commercianti, specialmente dalle donne. Sì. Visto che anche ma Monti, che c'entrano i commercianti? Lei faceva, la commerciante? Vabbè. Lei faceva la commerciante? Certo. Ma che c'entrano i commercianti? Ma io non lo so. No, c'entrano perché si sono dimenticati di questa legge. Sì. Io sono senza lavoro, senza pensione. Sì. E dove è finita la sensibilità nei confronti delle donne? Mm. La Fornero forse non sarà più una donna. Ma non che lo so. C'entra? Non sarà più una c'entra, donna. C'entra. Sì, c'entra perché c'entra. Il menù magro del governo, forse Monti non lo sa quanto è magro quello dei commercianti in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, visto che è tutta colpa di Monti, no? È tutta colpa di Monti. Sì. tutta colpa, sì, di Monti. È colpa di Monti, perché io altrimenti ero in pensione. Sì. E invece mi hanno, con una legge, mi hanno fatto ridare indietro la rottamazione. Sì. Andatevela a leggere, del 2008. Sì. Del Sole 24 e poi, Ore. Ma che c'entra il Sole 24 Ore? Poi? Sì, c'era sul Sole 24 Sì, c'era sul Sole 24 Ore. Poi? E quindi io adesso sono bene costretta ad andare a elemosinare. Andrea La Verona, 800 24 00 24, Parenzo, e accendi sto cellulare, su, e dai, forza. E sì, che cavolo, ogni volta c'è la pubblicità e chiudi il cellulare, ma che succede? Cioè, dobbiamo rincorrerti per tutta Roma, abbi pazienza, su. No, sono a casa, ma ho capito, ma, perché... ma non si può chiudere, perché dopo bisogna richiamarti, è un casino. Non cioè, si può chiudere. No, non si può chiudere. Chiudere, Andrea La Verona, sì. No, perché sennò qua... Però... Chiamo Landini. Ma tu devi chiamare Landini, chiama chi vuoi, devi fare causa. Chiamo, fai causa. Chiamo il sindacato, brava. Hai capito? E ogni giorno raccontiamo storie come quella di quella signora. Ma tu devi chiamare sempre i sindacati, che sono sempre che fanno sempre delle cose fantastiche, cioè fanno sempre delle cose meravigliose, fantastiche. Signora, è una storia meravigliosa da sapere nel dettaglio, nel dettaglio. Sindacati, roba da matti, dai. Andrea, dica, su. Tra poco abbiamo un altro grande ospite dopo Albertini, eh. Niente, un piccolo consiglio per Albertini. Sì. Ho sempre avuto grande stima per lui, però è meglio che faccia meno il pagliaccio quando è in radio, anche perché adesso si candida a Lombardia e al Senato. Ma lui ha detto che vuole continuare a fare le imitazioni lo stesso, anche con Monti, anche se fosse senatore, eccetera, eccetera. Vuole Beh, secondo me i cittadini non danno buona impressione a comportarsi così. Per me, cioè, quelle coglionate lì le può fare quando non è in campagna elettorale, in qualche, ma non in questo momento, che dovrebbe dirci come risolvere i problemi. Invece è una brava persona, diciamo. No, guardi, però adesso bisogna distinguere. Non è che se uno fa il politico non può fare le imitazioni, è bravo a fare le imitazioni. Sì, ma la campagna elettorale va male. Ma tutto. Ho capito, ma parla ogni giorno. Ma che vuol dire? Parla ogni giorno su 140 televisioni, radio, giornali, eccetera. Con noi si permette pure di fare le imitazioni della Russa, di Tremonti. Ma qual è il problema? Scusa. Non è il periodo. Uno che ma chi ha detto che non è il periodo? Questa è la mia opinione, la vostra è diversa. Voi però siete bravi. Siete bravi perché siete stati in grado di tirargli fuori ste robe. O se no, non, siccome è una persona intelligente, sicuramente le ha studiate. Gli consiglio anche di cambiare. Ma guardi che è una vita che fa, sono anni. Ma sono viene scoperto in questo periodo come imitatore di La Russa. Sono anni che qui alla Zanzara e altrove, dai nostri amici di Radio 2. Allora deve andare a fare fa le imitazioni. Ma è una vita che fa le imitazioni. Perché sinceramente io il voto non glielo darò mai. E vabbè, lei abita a Verona, tra l'altro. È una polemica stupida. È una polemica veramente ridicola, glielo dico subito. No, io non ho mai però sentito io, vabbè, però allora per me sapere che uno va a fare adesso, che dovrebbe essere lì a pensare come risolvere i problemi d'Italia, prima in mente di imitare La Russa, che comunque va bene, è bravo a imitarlo, però secondo me i cittadini ci rimangono molto male e io ci ma io i cittadini cosa? Comunque va bene, siete bravi. E dopo un'altra roba, quella della di dire che la signora giudice lì è stata la sua ragazza, ma anche beh, ma quella è una notizia, quella è una notizia, perché ci ha detto che non è né comunista né femminista, abbia pazienza. Vabbè, ci deve dire come risolvere i problemi. Oddio, con questi. Ma io non è che ci sono trasmissioni in cui per forza bisogna dire come si risolvono i problemi, Andrea, perché tanto le diranno sempre le stesse cose generiche, ha capito o no? Ha sì, capito comunque, o no? Allora, vabbè, allora che si impegni a pensare cosa fare, ma non andare a fare il pagliaccio, perché io ci sono rimasto male. Di Albertini avevo comunque una grande stima, ce l'ho ancora un po', però non è quello il sì, contesto, ma non è, il se l'ha scoperto stasera, se l'ha scoperto stasera, le do un consiglio: vada su YouTube, faccia Albertini imitazioni, si faccia una bella carrellata delle imitazioni di Albertini e vedrà le date, cioè non è la prima volta, non è che lo fa in campagna elettorale, lo fa sempre in campagna elettorale, in un teatro addirittura, l'ha fatto in un teatro come spettacolo, ma insomma di che parliamo? Cioè, sapere che lui deve andare a risolvere i miei problemi a Roma, in Europa, e in questo momento invece di parlare di veri problemi, questa cosa mi delude. Comunque va bene. Vabbè, comunque, guardi, adesso non la voglio convincere. Siete sempre forti. Grazie. Ciao. Zanzara! Lo hanno già ribattezzato il grande trombato. Nessuna allusione sessuale, cioè grande trombato di queste elezioni, insomma, prima delle elezioni addirittura. Il grande trombato, in questo caso dalle liste del Partito Democratico. Roberto Reggi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Comandiamo, abbiamo anche i giudici fidanzati con gli ex sindaci, ha capito? Sì, appunto, parlavo di trombate, meglio di no. No, no, no, no, in questo caso no, perché Roberto Reggi è stato il più stretto collaboratore di Matteo Renzi durante le primarie del Partito Democratico, ingegnere, è tornato a fare l'ingegnere, tra l'altro, da qualche giorno, e insomma l'hanno fatta fuori Reggi, diciamo la verità, insomma, l'hanno fatta ma fuori. Ma c'è dietro? Sì, beh, un po' ma l'hanno fatta fuori davvero, insomma. L'hanno fatta fuori? C'è stata una determinata voglia di non avermi nel listino. Ecco, ma chi è stato? Questo lei già l'ha detto oggi in diverse interviste, però noi siamo abituati sempre a fare nomi e cognomi, perché poi le cose non sono mai casuali, nascono da inimicizie, da cose dette durante la campagna elettorale, poi ne parleremo, eccetera. Ma secondo lei, quello che proprio ha detto a Bersani, guarda, io Reggi proprio no. Quello non lo voglio. Vabbè, diciamo che io non mi sono fatto ben volere nel periodo delle primarie per la scelta del candidato premier del centro-sinistra. Io sì. ero coordinatore della campagna di Matteo Renzi e in questo ruolo sì. ho esercitato tutte le prerogative, insomma, cercando di far diventare queste primarie vere, competitive. Beh, non solo questo, ha legnato in alcune occasioni, ma è normale. Quando c'è una partita vera si prendono e si danno, no? Ma lei si pente, per esempio, di aver usato l'espressione gli scagnozzi di Bersani? O non si pente di nulla? O non si pente di nulla? Sì, mi pento, nel senso che ho forse esagerato nei toni, ma non che gli altri siano stati veri. Per cui a quel punto bisognava individuare un tribunale che giudicasse tutti quelli che erano andati oltre i limiti. A questo punto tutti quelli che erano andati oltre i limiti dovevano star fuori. In realtà, cioè, a lei che cosa hanno detto, per esempio? A lei cosa hanno detto? Mi hanno detto che ho esagerato i toni. No, cosa hanno detto durante la campagna elettorale? Ma, per esempio, la Moretti mi ha detto Casaleggio Casaleggio è un amico, l'insulto pregiativo, no? Tu sei il Casaleggio di Renzi, è una specie di guru, No, per esempio, no, l'analogo di Scagnozzo. Scagnozzo non è un'offesa. Se andate a vedere sul vocabolario, dice che è qualcuno che fa un'azione senza diciamo voluta dal padrone, senza metterci in nessuna azione soggettiva. No? Però vado a vedere il vocabolario. Quando lei ha detto era riferito alle regole che erano troppo restrittive e infatti si sono rivelate tali, perché ad esempio i giovani 16 anni, 17 anni non hanno potuto votare, tanti altri non hanno potuto farlo nel secondo turno. Questa cosa non è piaciuta. Non è piaciuto al punto che qualcuno lei una volta disse: ora non ci resta che aspettarli lungo la riva del fiume uno a uno, quando Veltroni annunciò che non si sarebbe ricandidato. Pure questo? Mi ero fermato, sì, io avevo detto che non ci resta che aspettarli lungo la riva, sì. Effettivamente lì non però ho detto, Reggi, però... lei che si pente e mi dice sì, mi pento di qualcosa, non è più Roberto Reggi, si pente di qualcosa o no? No, mi pento nel senso che alzando i toni poi... Ha pagato? Si rischia di perdere nei contenuti. Ma sono stati gli scagnozzi? Passano i messaggi sbagliati e non si parla dei contenuti che invece dovrebbero essere al centro della campagna. Ma sono stati gli scagnozzi? Sono stati gli scagnozzi di Bersani sono a farla fuori? Sono stati quelli che si sono sentiti offesi da questa terminologia. Cioè, per esempio, Stumpo, Errani, chi? A me me l'ha comunicato Errani che c'era stata questa... Ma lui era quello che faceva le trattative con... per l'Emilia Romagna? No, con Renzi per le liste. Sì. No, e quindi è lui che mi ha comunicato questa... ma chi è che proprio non ha voluto? Chi è che non ha voluto? Beh, io immagino, perché non è che li ho sentiti con le mie orecchie, ma chi ho offeso di più, probabilmente Emilia Vacca, Stumpo, e quel gruppo che ha elaborato le regole e che non ha gradito le mie... diciamo Ma nei suoi confronti sono stati usati in questo caso metodi un po' stalinisti? Beh, giudicate voi. Insomma. No, ma lo dica lei. Io credo di sì, perché sono metodi che non avremmo mai voluto vedere e rivedere, insomma. Lei una volta pure disse... Ho fatto il sindaco 10 anni nella mia città, mi sono speso perché le primarie avessero successo come hanno avuto, alla fine non mi viene permesso di candidarmi in un luogo dove pensavo di poter far bene, però mi scusi, portando la mia esperienza di amministratore locale. Però la cosa che è mi disgustato. È un po' disgustato da quello che è successo? Da tutto. Beh, io sono mortificato e personalmente umanamente ho sofferto, insomma. Ma pensa di lasciare il Partito Democratico? No, no, perché non penso che sia una motivazione sufficiente, nel senso che considero il Partito Democratico ancora l'unico partito in grado di poter governare bene questo paese e il luogo dove poter anche però ha pensato in queste ore di lasciarlo, gli è venuto in mente. Diciamo che ho avuto un momento di grande delusione e ha pensato di lasciare il PD. Ho pensato di non fare più politica. Di non fare più politica. E invece adesso vuole continuare a fare politica? No, se interesserà al mio partito ricoinvolgermi, io ci sono. Però? Ieri ho dimostrato di non volermi coinvolgere, per cui... Ma lei continuerà a fare politica o no? Continuerà a fare politica? Per fortuna ho il mio mestiere, per cui non vivo di politica, è una grande libertà che ho e che... mi consente anche di vivere serenamente. Allora, si può dire che l'hanno fatta fuori quelli che invece vivono di politica? Sì. Cioè mi hanno fatto fuori quelli che vivono di politica. Sì, perché quelli hanno solo quel mestiere lì, insomma. Cioè se non fanno politica, sono gelati. Stanno in mezzo alla strada, dice lei. No, beh, adesso non esageriamo. Beh, gelati, però. Ha detto lei. Gelati, che vuol dire? Gelati, è una battuta. Che vuol dire gelati in Piacentino? Gelati, che appunto, gelati vuol dire che uno sta fuori dal freddo e non ha niente. Ah, appunto, stanno in mezzo a una strada. Questo vuol dire. Vabbè, lei comunque, adesso non può cambiare natura, Reggi. Lei fa freddure, battute, attacca. Cioè, è Roberto Reggi. Così l'abbiamo conosciuto in quei mesi. E secondo me una persona così in Parlamento per Renzi ci voleva. Tra l'altro, io dico una cosa. Adesso, dopo la pubblicità ne parliamo, perché io ho l'impressione che Renzi non si sia battuto abbastanza. Questa è la mia impressione, lei non lo dirà mai, lo so che non lo dirà mai, però secondo me non lo dirò mai perché non è vero. No, diciamo che Renzi sta interpretando il ruolo dello sconfitto in un modo totalmente nuovo, che a cui non siamo abituati, cioè di solito quello è vero. E quindi pensiamo che lui non difende i suoi perché non fa le battaglie per la corrente, non rivendica i posti, cose normali fino a ieri. Oggi abbiamo un politico che è coerente al messaggio che ha dato in campagna elettorale. Se perderò non accetterò premi di consolazione. Vabbè, qualcuno l'ha piazzato però, cioè qualcuno... Ma qualcuno l'ha piazzato però su concessione di Bersani. Lui ha accettato pedissequamente quello che gli ha proposto Bersani. Ma lei rimprovera, gli rimprovera il fatto che non si è battuto per lei fino alla fine o no? No, perché a lui si voleva battere fino alla fine per me, e io gli ho chiesto di non farlo perché il progetto era troppo importante per metterlo a repentaglio per una sola persona. Perché non ha fatto le primarie lei, Reggi, scusi? Non ho fatto le primarie. Perché era una farsa? Era una farsa? Beh, no, non è che era una farsa, però quasi. Sicuramente... diciamo che non c'era la possibilità di partecipare, ma soprattutto perché avuto una posizione così esposta nel mio territorio si era già generata una grande conflittualità nei miei confronti. Vabbè, però uno si mette alla prova, no? Va a Piacenza. No, guarda, io a Piacenza ho vinto due volte consecutive, fare il sindaco ho preso tantissimi voti, non era quello il problema. Cioè sapeva di perdere? Nulla. Sapeva di perdere? No, assolutamente. Sapevo di vincere, però avrei vinto sulle macerie di un partito e non volevo farlo. Vabbè, adesso questo è complesso da spiegare a chi ci ascolta. No, nel senso che c'era una situazione per cui il partito era tutto schierato contro di me, proprio perché avevo... Beh, dunque avrebbe perso. No, perché io avevo i cittadini dalla mia parte, no? Quelli che quei pochi che erano riusciti a superare le forche caudine dei vincoli delle primarie erano tutti per me. Quindi era una lotta sicuramente molto... complessa, ma io ero convinto di vincere. Ma lei voterà Bersani un po' turandosi il naso alle elezioni, mi dica la verità. No, io voterò Bersani senza turarmi il naso. Io Bersani l'ho votato come segretario e sono molto contento di quello che ha fatto come segretario. Nei momenti in cui si votava il candidato premier, secondo me era meglio Renzi, perché era più innovativo, più capace di portare novità. Cioè lei è rimasto convinto dell'idea che se oggi il competitore di Berlusconi e di Monti non c'era partita? No, non c'era partita se era Renzi. Non veniva neanche Berlusconi, lo sappiamo. Noi avevamo detto... Cioè non c'era nemmeno Berlusconi. Bersani tornerà. Cioè gli toglievate un salto. Tornerà Berlusconi e rischierà di governare Monti, no? Era una nostra teoria che si sta verificando, esattamente. Se vincerà Renzi, cambierà la politica italiana. Questa è la nostra tesi e io ci credo profondamente. Cioè se Bersani non riesce a vincere nemmeno questa volta, significa che aveva ragione Renzi? Che sbaglia un rigore a porta vuota e si fa autogol. Cioè sarebbe clamoroso, cioè un po' sarebbe la rivincita di Renzi se Bersani. No, un po' sì, Reggi. Speriamo di no, io sono convinto che adesso tra l'altro Renzi lavorerà fianco a fianco. Lei dice? Lei dice? Sì, no, vedrete, se volete ci svegliamo tra qualche settimana. La prima cosa che farà per Bersani quale sarà? Beh, sarà quello di raccontare i temi cari a noi, nel senso alla faranno delle cose a fianco, uno accanto all'altro? Beh, non lo so, è previsto? Se faranno a fianco, sicuramente, siccome ci sia un mese e mezzo, bisogna coprire tutto il paese, si alterneranno, faranno qualcosa assieme di sicuro. Faranno qualcosa insieme, sì. Stanno lavorando assieme, mi sembra bene, ecco. Lei non se la sente proprio di fare campagna elettorale, no? Proprio no, perché no? Io devo superare un attimo questo momento mio personale, ma stasera è già diverso rispetto a ieri sera, domani sarà ancora meglio. Quindi sono un ragazzo che si riprende da svelto, dai. Vabbè, su, non è così tragico non andare in Parlamento. No, appunto, non è morto. Però no. mi scusi una cosa, è abbastanza... I nomi di chi? I nomi, l'abbiamo detto, i nomi che Stumpo ha detto, Migliavacca, i principali. Però Stumpo e Migliavacca non è che sono persone che decidono qualcosa, su. Poi, cioè non è che non decidono, mica li voglio sminuire, per carità. Sicuramente ha contribuito anche Errani, perché Errani è stato irremovibile, se fosse stato un po' più... cioè comprensivo e di buon senso, perché qui cioè il punto sono le frasi che si sono macchiati di un fatto che potevano evitare, che ha macchiato un percorso perfetto, no? Noi siamo arrivati con le primarie individuali, il premier, con le primarie individuali, i candidati, c'era da fare il listino, mettersi d'accordo, hanno voluto mettere il veto su di me, una stupidaggine enorme. La macchia in un percorso perfetto, lei dice. Sì. Direi di sì, evitarsi la macchia, poi la macchia riguarda me, chi sarà mai, no? Ma qual è quella frase che ha colpito di più, quella che lei ha detto? È stata quella su Ceausescu, quando lei disse... Ceausescu, sì, ma quella lì era una battuta, ma non sono mica sportivi sti ragazzi, cioè se la prendono su... A chi era riferita Ceausescu? A Bersani? A chi era riferita? Ma no, era riferita al fatto che i segretari regionali si riunivano... che dovevano garantire la neutralità per sostenere un candidato solo. Sì, nemmeno con Ceausescu, lei disse. Forse gli scagnozzi di Bersani è stata quella più... Gli scagnozzi di Bersani riguardavano quelli che ha fatto le regole. No, ma quello lo so, d'accordo, ma quella che ha pesato di più. L'hanno estesa nella propaganda, l'hanno estesa a tutti. Ah, i volontari, siete scagnozzi di Bersani. Io non mi riferivo assolutamente ai volontari. Vabbè, comunque questa... La propaganda è micidiale, quando ti vogliono... Quella che ha pesato di più è questa. Propaganda comunista. Beh, quel tipo di propaganda lì, quando la mettono in moto, è quella del vecchio PC. Spietata. È quella del vecchio PC. Del vecchio PC. Per fortuna, speriamo di superarla. Io sono all'interno del Partito Democratico anche per quello. Per superare queste stupidaggini che succedono, come nel mio caso, che quando non ci saranno più, il PD sarà finalmente il partito che... Allora, un'ultima cosa è questa qua, Reggi, scusi un attimo, la differenza è Gori, per esempio, ha partecipato alle prime, io la trovo folle questa cosa, io ho grande stima professionale non solo per Giorgio Gori, però io trovo assurdo che uno fa le primarie, viene sostanzialmente sconfitto e poi ripescato, lo trovo... Allora, che le fai a fare le primarie? Se uno perde Gori non è mica stato ripescato. Beh, praticamente sì, nel senso che, lo so, è al Senato al numero 23, ma è nella posizione giusta che ha conquistato alle primarie. Primarie uno, allora non c'è nessuno che perde, è arrivato alla fine. È arrivato quarto a Bergamo e col quarto posto si è conquistato il 23° posto del listino. Entra in Parlamento al Senato solamente se il PD vince, se il centrosinistra vince il premio di maggioranza al Senato, così. Sì, perché ho capito, però non vince nessuno, non perde nessuno ste primarie, allora, No, ce n'erano mica solo quattro, ce n'erano molti. Lo so. Ma perché un trattamento per Gori sì e lei no, per esempio? Ma perché? Allora, perché tutti i responsabili della campagna elettorale di Bersani sono nel listino? Cioè, comunque altri sono entrati, 3-4 della Bonafè, altri sono entrati, anche il capo dello staff. Appunto, infatti non aveva nessun senso escludere me, se non per un'ostilità personale dovuta all'offesa di qualcuno, che diciamo siamo dei bambini, cioè siamo i bambini piccoli che non giocano più i soldatini perché mi hai sparato prima di... Non lo so. Diciamo che è l'unico... L'unico vero che l'ha presa nel testo, si chiama Reggi, signor Reggi, questo è lui. L'unico che l'ha presa in quel posto sono io. Vabbè. Grazie Reggi, a presto. Grazie a voi. Ciao, traffico. Strade in diretta. Buona sera, traffico scorrevole sulla rete autostradale, resta intensa la circolazione intorno a Torino sulla tangenziale nord, dove ci sono code in uscita a Venaria Stadio per la partita di calcio di questa sera. Per quanto riguarda le condizioni meteo, attenzione ai banchi di nebbia sull'Autosole tra Rio Veggio e Roncobilaccio e sulla 15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli. Pioggia invece sulla 12 Genova-Livorno tra Chiavari e Deiva Marina. A Roma oggi e domani si circola a targhe alterne e termina alle 20:30 il divieto di circolazione per i veicoli con targa dispari. Domani in città non potranno circolare i veicoli con targa pari dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Esenti dal provvedimento gli Euro 5 e i veicoli a GPL e metano. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. La zanzara. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Beh, devo dire la verità, a me questo Reggi piace, Parenzo. A te non piace, lo so, perché è troppo berlusconiano. Magari tu gli attribuisci, sì, gli attribuisci un pizzico di berlusconeide a Reggi. No? Assolutamente. No, anzi, no. Oggi che ha pagato un prezzo altissimo, se sempre sbagliato, però comunque è uno di quelli che si aspettava di essere candidato, anche perché era naturalmente così, era nella cerchia strettissima di Renzi, è l'unico che ha pagato il prezzo per aver detto cose che a noi piacciono moltissimo, anche frizzanti. Filiberto, Filiberto da Ferrara, Filiberto. Chi è Filiberto? Beh, non è Emanuele Filiberto, sicuramente. No, non sono Emanuele Filiberto, sono solo Filiberto. Filiberto, bene. Perché l'hanno chiamata Filiberto? Perché mio padre era monarchico. Beh, questo mi pare una buona ragione, no? Beh, ecco, insomma, perché insomma, cioè Parenzo rifiuta qualsiasi cosa che riguardi. Ma Parenzo non capisce un cazzo, un deficiente, lasci perdere, però è un idiota. Siamo al top. Siamo un idiota. Ma è solo un idiota, è solo un esagerato. È un nulla assoluto. È un nulla assoluto. Lo zero assoluto. Posso dire che sono contro la facoltà, non vorrei fare radio educational. Mi fa parlare la monarchia. Sì, un attimo, la faccio parlare subito. Mi fa parlare questo. La faccio parlare subito, Filiberto, un attimo che la faccio parlare, un secondo, lasci rispondere Parenzo, gli ha dato dell'idiota. No, è nulla, non capisci un cazzo. Abbia pazienza, faccia rispondere un secondo, no? No, dico semplicemente che se lui è monarchico, oh, il padre, il padre ha detto che è monarchico, non ma lui. Dice, e io ho detto che vabbè, cioè, mi fa ridere la monarchia italiana, mi faceva ridere perché è ridicola, ridicola, non è che scappa con la coda tra le gambe, via. Se le piace, le piace così a lei, però. Ma chi se ne frega, va bene? Filiberto. Va bene, buonasera. No, risponda, scusi. Volevo solo dire una cosa, io sono di destra. Sì, questo sarà capito. Ferrara, sono di destra. Sì, vabbè, che c'entra? Non è che Ferrara sono tutti. No, è solo Ferrara, c'è una comunista. Vabbè, ho capito, non è che sono tutti comunisti a Ferrara, abbia pazienza. Cioè. Tanti. Vabbè, ho capito, ma volevo solo dirle questo. Io sì, sono convinto che vincerà ancora Berlusconi. Però, sono convinto che Berlusconi vincerà ugualmente. Però se non dovesse vincere per 5 anni sono contento ugualmente, perché avrò per 5 anni Grasso, Bocchino, Colingroia. Grasso, Bocchino? Colingroia. Ah, battuta ha fatto. Un Grasso, Bocchino, Colingroia, giusto? Un lo traduca, guarda, quanto si ci ha pensato per dire questa cosa. No, no, guarda, meno di te ci ho pensato. E tu sei bello, signor Filiberto, glielo dico con rispetto. Lei ascoltando la trasmissione, a un certo punto lei, io dico con rispetto, adesso lei guardi, io non capisco come continuano a tenere questa trasmissione, che lei non conta niente. Dice solo buffonate e non capisco come continua a tenerla. Lei è l'utile idiota della trasmissione, lo sa? Guarda, l'idiota della trasmissione. Guardi che gli idioti. Ma io, a differenza sua sono anche pagato, ha capito? A differenza sua. Ma guarda che mi pagano anche a me, sa? Non si preoccupi, mi ho pagato anch'io. Sì, ma non per fare l'idiota, però. Non per fare l'idiota, per fare altre cose. Appunto, però. Beh, ma a lei le viene naturale fare l'idiota. No, naturalissimo. Sono preso da lei, evidentemente. Sa, però scusi, Filiberto, io. Per ascoltarlo sono diventato come lei. Io dico sempre una cosa, Filiberto: quando uno viene pagato per fare l'idiota e per dire stronzate. Ma io l'ho fatto per 20 anni di idiota e sono stato pagato per 20 anni. Appunto. Cosa facevo, quindi. E allora. Però, no, ma lei mi ha continuato ancora. Chiedo, guardi, lei è una persona intelligente. Mi chiedo come fa a contornarsi di un personaggio del genere che le rovina solo la trasmissione. Ma se mi rovina la trasmissione, lei non sarebbe qui a parlare con noi, ha capito? Non è vero, ma io chiamo perché c'è lei. Io difatti ho chiamato perché aveva detto che Parenzo non c'era stasera. No, Benetti non l'ho detto che Parenzo non c'era. No, no, l'ho detto, Parenzo non c'ha il telefono staccato, non si sente, non vabbè, si quello, non parliamo. Quello era, è vero o no? Quello era, no? Ma non è una novità quella che ha il telefono staccato. Allora, stacc- beh, io purtroppo lo trovo, io lo odio, io dico cordialmente lo odio. Ma che io c'ha? Lo odio, perché Parenzo lo odio. Ma perché lo odio? Io non lo odio, io sono... Io guardi, io non odio nessuno, Parenzo lo odio, ne è un fatto di pelle, veramente una cosa. Ma anche a me invece, io non avrebbe voglia di abbracciarla invece. Vabbè, perché, dire, perché guarda, io non sto le persone vedono il telefono. Sento pochissimo il telefono, quindi c'ho... No, la vuole abbracciare, no, la vuole abbracciare. Abbracciamoci. Io vorrei abbracciare, perché lei è proprio debole di testa. E io vorrei abbracciarla, lei è solo debole invece. Lei è debole, vorrei... perché è nato debole, capisce? Lei è nato debole. Io la vorrei abbracciare e accarezzare, perché lei è debole da me, va, capito? E dove la mettono stanno? Lei prende la forma del microfono, se la mettono sulla merda diventa una merda, perché lei è una merda, ha capito? Quindi lei prende tutte le forme possibili, e lei è Zelig. Zelig, ma che Zelig non è male. Adesso le do una bella notizia. Qual è? Bravo, lei sa che più bene, io per contratto più vengo insultato, più guadagno. Guardi, allora diventerà miliardario. E infatti. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. No, no, la signora Mirante è tanto di cappello, l'unica donna intelligente che avete intervistato negli ultimi 2 anni. Beh, eccolo qua. Addirittura. Eccolo qua. Adesso... Ecco Filiberto. Cari amici della Zanzara, ecco a voi il Filiberto Graziani, mio prozio era il famoso generale Graziani, di destra. Il suo prozio era il generale... della Repubblica Sociale di Salò. Beh, signor Graziani... A differenza di lui, che si vergogna. Signor Graziani, che qualche... bella famiglia. La saluto, arrivederla, stia bene. Ma che bella famiglia. Ma che bella famiglia. Lo vedo, gli do una bastonata in testa a questo io. Ma che bella famiglia. Smeralda da Grosseto, la signora Smeralda. Vabbè, adesso non è che se uno è parente del generale Graziani si deve vergognare, perché è parente del generale. E si vanta pure. Smeralda da Grosseto, buonasera. Ma io se fossi nipote di Prilica mi vergognerei. Ma che c'è? Ma dai, su, ma perché devi dire queste stupidaggini? Se fossi nipote di Prilica ti vergogneresti? No, direi, beh, lui ha fatto l'elogio del fascismo, quindi non si vergogna per nulla di quella storia. Io, se fossi, io lo voglio, nipote di Prinke, direi, guarda, mio nonno era un criminale, assassino, e quindi mi vergogno di quello che ha fatto. Ma tu sei fuori di testa, come si fa a dire una cosa di questo tipo? Dai, su, ma nessuno, ma non è impossibile qualcuno... Stiamo parlando di criminali di guerra, d'accordo, di assassini, d'accordo, però uno non è che necessario si debba vergognare dei propri parenti addirittura, può succedere. No, in alcuni ma anche casi. Dire io sono nipote del generale Graziani, sì. Ma uno si deve vantare di essere nipote di Rita Levi Montalcini o di Nobel per la pace, quello sì. Smeralda da Grosseto, fammi sentire la signora Smeralda. Sì, buonasera. Buonasera. Prima di tutto chiedo scusa per il mio italiano, perché non vivo sempre in Italia. No, ma lei deve andare rapida, veloce e non avere paura. Sì, no, io invece ho molta paura perché siete molto aggressivi. Vabbè, ma non si preoccupi. Sono basta... molto spaventata del signor Parenzo, soprattutto. Addirittura. Spaventatissima. Vabbè, c'è la Smeralda, allora? Comunque, volevo dire, intanto, potrei agganciarmi a un discorso iniziale, velocissima, di quel signore che ha fatto il sindaco, se non mi sbaglio, a Milano, il signor Albertini? Sì, beh, sì, ha fatto il sindaco dire, a Milano due volte. È stato, un certo come donna, di... è stato poco carino. Io non credo che il giudice sia tanto soddisfatto che lui abbia detto è stata una mia fidanzata. Non si dice mai, non ha senso. Quindi non è stato molto carino. Lei lo difende molto, però si è comportato molto male, umanamente, politicamente. Ma perché? Vabbè. Ha detto che è stato fidanzato a ottimi ma rapporti scusi, con una persona. Io se un mio ex fidanzato di 20 vabbè, anni fa, d'accordo, di 10 anni ho fa, in radio dice è stata la mia fidanzata, non mi fa piacere. Lasciamo stare la sentenza che, per l'amor di Dio, non voglio entrare in Italia in queste cose, ma credo che sia una sentenza anche perché era il signor Berlusconi. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà, questo è il rimedio per l'insetto assatanato. Sia tigro sia zezze, è ritornata in me, la rompiballe più rompi che c'è. E la zanzara che arriva... Se ci si mette con Berlusconi, primo la si prende in quel posto, perché lo sappiamo tutti che Berlusconi ormai è uno psicopatico, no. I suoi dovrebbero ricoverare. E la zanzara che succhia il tuo sangue va via. E la zanzara. Questa è un'ascoltatrice di Radio Padania, eh? Il procuratore Pietro Grasso, da poco candidato come capolista nel Lazio al Senato per il Partito Democratico, beh, mi dà del birbante. L'aveva già fatto una volta nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura insieme a Bersani. È ritornato oggi, credo, all'aria che tira. Sentiamo. A me viene da ridere del premio a Berlusconi, perché se qualcuno avesse la pazienza di andarsi a sentire la registrazione che è su YouTube di quella zanzara, in cui quel birbante di Cruciani ha studiato una certa risposta, io farei capire come ho l'onestà intellettuale di dire una cosa utile che è stata data ai magistrati, che è quella della legge che hanno consentito di sequestrare patrimoni per 40 miliardi. Questo sempre sulla famosa frase che disse sul premio a Berlusconi. Io non ho aggiustato niente, naturalmente, perché poi potete andare a sentire. Ma no, ma lui tra l'altro non vuole nemmeno troppo insistere su questo. La domanda l'abbiamo fatta noi: lei darebbe un premio a Berlusconi? Lui ha detto sì, poi pronunciò anche lui la parola premio, ed è vero che poi lui si riferiva alla questione del sequestro dei beni e ai soldi che erano stati conquistati dallo Stato per il sequestro dei beni. Ma va benissimo, certo. Non ho nessuna polemica da fare col dottor Grasso, che considero una bravissima persona, cioè, non è questo il problema. Però noi non manipoliamo niente, non trucchiamo niente, potete andare ad ascoltare tutti ovunque su YouTube, c'era la famosa frase sul premio a Berlusconi del procuratore Grasso. Poi birbante, sì, ogni tanto siamo un po' birbanti, sì, d'altra parte. Oh, Berlusconi ha annunciato ieri sera che è nonno per la settima volta, Riccardo, eh? È nonno? Per la settima volta, no, però risentiamo le giudichesse comuniste e femministe, va. Risentiamo questo, magari sentiamo anche Albertini se c'è già. Siccome una sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che lei paghi 100.000 euro al giorno alla sua ex moglie, lei non Veronica è informata, Lario. Sono 200.000. 200.000 al giorno? Sì. E questo le dice chi sono i signori, i giudici di Milano. 200.000. Tre. Ecco, no, ma le voglio chiedere, questa è la parola c'è l'appello. Ma veda dove lei cercherà di ridurre. Senta, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? Allora, sono tre donne, tre giudici donna, femministe e comuniste, le basta? Poi c'è un litigio alla fine con la Gruber, però voglio farvi ascoltare questo ieri. Fini e casini li paghiamo noi, dice Berlusconi. La Gruber osserva, beh, anche i suoi avvocati li paghiamo noi. E da quando sono nel governo, mentre certi signori che sono venuti da lei sono pagati con i nostri soldi da 30 anni, Fini e Casini, per esempio, li paghiamo noi, io nelle come casse... Come alcuni suoi avvocati che noi paghiamo e che sono in Parlamento, no? Per esempio. No, li paghiamo noi, sono in Parlamento, ma sono da molto poco tempo... Lei paga tempo le parcelle per Ghedini e Longo e poi noi contribuenti niente paghiamo questo loro non c'entra stipendio niente. Di le volevo deputati, soltanto dire non è che ci vanno che per tanto quanto in mi riguarda, io non solo pagavo 56.000 stipendi e quindi era una cosa abbastanza... dura, che mi teneva molto spesso con gli occhi aperti durante la notte. Questi signori invece sono cresciuti nella bambagia del denaro pubblico, ma io ho un altro merito, che nelle casse dell'erario, anche per pagare questi signori. Marco da Firenze, buonasera. Buonasera. Vada. Finalmente, tre punti veloci. Renzi non si è candidato per quello, rimane sulla spallista dell'Arno a vedere passare Bersani, perché prima o poi ci passa. E galleggia, queste le sono per in coda al discorso che facevate prima. Sì. Invece la mia chiamata era per lodare Monti, perché effettivamente Monti, senza fare le primarie, è riuscito a mettere in lista i rappresentanti dell'Italia, proprio quelli giusti. In che senso, scusi? È Albertini rappresenta finalmente l'italiano medio, è abituato a stare in mutande, noi siamo già tutti in mutande. Nessuno se lo ricorda più Albertini in mutande, io sì. Lo vedo. Cioè lei dice, siccome Monti ci ha messo in mutande, Albertini è perfetto perché una volta si mise in mutande, dice. Rappresenta l'italiano medio. Vabbè, Marco. Vabbè, ci può stare questa battuta, su. Lorenzo da Piacenza. Lorenzo da Piacenza, buonasera. Sì, ma non è che Monti, adesso però, per carità, va benissimo tutto, sì, ci saranno state le scelte sbagliate di questo governo, le tasse, quello che volete, soprattutto le tasse, le non scelte in alcuni settori, la scelta di puntare sulle tasse piuttosto che sul debito, eccetera. Però non è che tutti i mali degli italiani si sono concentrati in quest'ultimo anno. Evidentemente c'è qualcosa che è successo anche prima, è successo qualcosa anche prima. Prima non è che ci sia stato il Bengodi, non è che c'è il Bengodi prima e dopo invece c'è con Monti il disastro. Prima c'era il disastro, quelli che hanno provocato il grande disastro, 40 anni di sperperi pubblici, di politica, eccetera, eccetera. Beh, 40 anni. Sì, 40 anni, 40 anni, 40 anni di debito pubblico, di mala politica, eccetera, eccetera. Dopo un anno di Monti, con tutti i suoi limiti, ma questo è il, questa è la proporzione, questa è la proporzione. Avete capito o no? Quando il giorno scivola via, si svegliano per me, quando tutto sembra poesia. Beh, è con noi, caro Parenzo, è con noi, è un personaggio che cerchiamo di scoprire, un personaggio, Paolo Ferraro, è un magistrato, ed è candidato, dicono, capolista, non so dove, per Forza Nuova, per Forza Nuova di Fiore. Un moderato, un sincero moderato. Una formazione politica che tu apprezzi moltissimo, no? Mi sembra, no? Io penso che dovrebbe essere messa al bando. Però... Al bando addirittura? Al bando, non al confino. Ma perché ti sento male? Al bando. In base alla legge Mancino dovrebbe essere smantellata subito. Non ti sento, però... non ti sento bene, Davide, non ti sento bene, non ti sento bene. Perché in base alla legge Mancino? Sì. Questo partito, movimento dovrebbe essere smantellato subito, però poi Ferraro, buonasera, affezionato a questa gente, quindi. Buonasera, come sta? Come al solito, benissimo. Come al solito, benissimo. Lei è promotore del comitato di coordinamento Difendiamo la Democrazia, giusto? Esatto. Allora, si candida con Forza Nuova, sì o no? No, come no? L'hanno annunciato ieri tutti, è candidato anche lo stesso Fiore, l'ha detto. No. No, e per chi è candidato, se è candidato, scusi, se mi posso permettere. Non mi candido io. Io sono l'autore di un grosso progetto storico-politico che fa i conti con la crisi attuale e propone a qualunque forza politica di realizzare un fronte che, come diceva lei poco fa, dia conto di quello che realmente è successo in questi ultimi 60 anni, Ma il progetto è importante, dice lei? Che spieghi agli italiani che stiamo andando verso la distruzione programmata, che dia conto che Monti, per l'appunto, è l'ultimo anello di un processo durato 20 anni e che racconti che questo processo si è realizzato insegnando anche semplificazioni, quali quelle tra destra e sinistra, che a nulla servono se si deve spiegare che cosa occorre fare oggi in questo momento storico. Scusi, ma Monti... Tra l'altro, Ferraro, scusi un attimo. Si applica direttamente e chiudo immediatamente alla buona parte degli uomini di vertice che appartengono a un'area occulta. A un'area occulta. Strutturata, cioè organizzata. La maggior parte degli uomini di vertice appartengono a un'area occulta? No, quegli uomini Quali? Che appartengono a un'area occulta, strutturata, organizzata segretamente, oggetto di un progetto che noi abbiamo già conosciuto come pubblico negli anni 90, e cioè il progetto Gladio. Il progetto Gladio. Un progetto che prevedeva... Sì, ma adesso chi partecipa a questa sorta di progetto prima occulto? Prima spieghiamo l'oggetto e poi spieghiamo i soggetti. Sì. Un progetto che prevedeva lo svuotamento e la distruzione della democrazia, presentandosi come politici democratici, che prevedeva l'irretimento attraverso una serie di strumenti di controllo, che prevedeva oltre e al di là e al di sopra, e da prima e dopo, rispetto al piano di rinascita democratica di Gelli, cioè il progetto pinduista, lo svuotamento di quello che è il substrato della democrazia. Bene, oggi, Ferraro. Oggi siamo alla fase finale di questo progetto. Alla fase finale, La quale ha previsto, ovviamente. Ma chi sono i burattini oggi? guardi, mi faccia spiegare. Beh, ho capito, però Ferraro, non è che qui siamo a un simposio, cioè bisogna anche essere sintetici. No, ma il problema è che la gente sappia che esisteva un'idea, sapeva che il sistema sarebbe andato in crisi, sì, e che ha preparato una sorta di Parenzo sta zitto di cassa. Che ha disastrato tutto quello che è successo, come dire giustamente. Scusi, signor magistrato. No, però scusi, signor Ferraro, oggi chi sono i burattini di questo? Aspetta un attimo, David. Chi sono i burattini oggi di questo progetto massonico? Innanzitutto non è solo massonico, è un massonico deviato, che vuol dire che una parte della massoneria. Massonico deviato. Basta adesso leggere quello che ha scritto Luttwak. Luttwak, sì, esatto. Teorico geopolitico del Pentagono. Sì. Nel 1969-70, ha riscritto nel 1996 e ha confermato in un'intervista nel 1998. Sì, ma oggi esiste ancora questo progetto? Quel progetto di cui parlo del 98 è quello di oggi. Di oggi, un progetto che prevedeva. Sì. Un'aggressione interna agli apparati, un'occupazione degli angli e un'inversione del funzionamento. E oggi che è successo? Qual è la situazione oggi? La situazione oggi, siamo alla fase finale, di questo progetto strisciante. Ma chi sono i protagonisti di questo progetto? Nell'ambito del quale pezzi di apparato di sinistra coperti, pezzi deviati, lentamente occupati all'interno di alcuni gangli della magistratura, la destra anche, la destra eversiva, la quale deve andare tutta quanta sotto la legge che lei ha citato, e poi? Perché è portatrice di un meccanismo neofascista, sono uniti, e questo filo non riguarda direttamente Monti, no, ma si poggia su una strategia economico-finanziaria, che è poi un altro tema, certo, che l'Islanda e altri paesi hanno risolto, capendo che oggi si esce dalla distruzione del nostro paese solo attraverso la lezione che insegnava Carlo Marx nel 1867. Ma c'è, esiste il una sistema cosa che si distruggerà attraverso l'indebitamento collettivo. Allora lui parlava di proletari. L'unica risposta possibile sarà di prendere in mano le banche, l'economia, la moneta, e ridare forme di organizzazione sociale che corrispondono agli interessi e alla possibilità di vivere in modo della gente. Ma esiste anche un progetto di controllo mentale? No, dunque, dei vari progetti che ho depositato, uno è stato desegretato nel 2007 dal Parlamento americano. Ma esiste questo un progetto di controllo mentale? Stato pubblicamente da Bill Clinton in una conferenza stampa negli Stati Uniti negli anni 80. Non mi pare che lei sia stato citato da Clinton, però. Scusi, professore. Prego? Non mi pare che lei sia stato citato da Clinton, però. Professore magistrato Ferraro. No, io nell'86 ero un bimbo. Da Clinton. E nell'86 io ero un bimbo. E lei forse era più bimbo di me. Clinton, quello sicuro. Nell'86 denunciò al mondo il progetto MK-Ultra, del quale MK io ho depositato Ultra, la procura di Teramo, che indaga sui fatti della caserma di Ascoli Piceno, la banca dati desegretata. La banca dati desegretata. Parenzo, hai capito qualcosa? No, ho capito e sono molto felice che questa persona non faccia più il magistrato. Ma lei fa ancora il magistrato, Ferraro? No. Guardi, ascolti a me. Io faccio in questo momento l'informatore storico, cioè quello che mette a condizione. Ma lei fa il magistrato ancora? No, assolutamente no. È stato cacciato dalla magistratura? No, sono stato oggetto di fatti denunciati penalmente da parte mia. Molto più grave. No, lei è stato collocato in aspettativa per infermità mentale, diciamo la verità. Beh, come non, esiste non esiste l'aspettativa per infermità il CSM mentale, ha deliberato il paese. No, il CSM a un certo punto poi magari la cosa è stata superata, ha deliberato. No, le spiego io, siccome lei non ha categorie corrispondenti al nostro sistema, le dico io che cosa è successo. Che è successo? Che avendo io denunciato questi fatti, quali non si capisce, e portandolo le prove professore, è una banca dati, banca dati non è una battuta di spirito. No, perché no, è vero, 563 megabyte oggetto di una denuncia da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America ed oggetto di un atto parlamentare. Ma lei ha fatto anche un'indagine, No, assolutamente no, lei è disinformato e disinforma. Ma no, ma che ne so, ho letto che lei ha fatto, avrebbe fatto un'indagine. Lei ha letto involontariamente una cosa disinformata. Avrebbe fatto un'indagine su una setta satanico-massonica in ambienti militari. Lei ha letto involontariamente una cosa disinformante. Chieda a me, io le spiego. Lei non ha fatto nessuna indagine? Io non ho potuto fare nessuna indagine perché non ero incaricato di fare un'indagine. Io mi sono trovato. Vabbè, intanto un attimo, c'è il traffico, ma è una vicenda particolare, quella di Melania Rea addirittura. Io sono stato sentito, come lei non sa, per 3 ore dalla procura di Teramo. Di Teramo. E perché... l'ufficiale di PG che mi ha sentito, sì, ha avuto 2 attentati. E anche il giudice della procura di Teramo. Lei ha detto ma che... questo è stato nascosto dalla stampa. Vabbè. Basta che lei ma l'hanno sospesa dire. Poi, l'hanno sospesa dopo questa vicenda qua. L'hanno sospesa. Il Consiglio Superiore l'hanno della sospesa. Magistratura non mi ha sospeso dopo questa vicenda, mi ha sospeso addirittura prima. Appunto. Forse. E mi ha sospeso. Perché sì, io stavo denunciando sì, per scritto questi fatti, certo, e ho denunciato in 100 pagine questi fatti, in una montagna. Adesso il traffico, però. Sono dati oggettivi. Sì, Ferraro, ho il traffico. Di audio. Vabbè, traffico. Banche dati. Banche dati, certo. Prove traffico. Dirette, prove in diretta. Quando la zanzarina. Parenzo, vuoi fare subito un commento così? No, voglio dire al professore, rischiando che poi come dire, mi inserisca in... Anche se ho insegnato per 2 cattedre. Sì, vabbè, allora... Recuerdo questi file dissecretati dalla CIA in America. No, voglio dire, se il professore ha sostenuto non le cose che ha detto da noi... Scusi. Dottore, vabbè, il dottor Ferraro. Dottor Ferraro, se il dottor sì. Se il dottore ha sostenuto le cose che ha sostenuto noi in questi 10 minuti davanti al CSM, io immagino la scena dei giudici che si sono guardati mentre lui argomentava, spiegava con dovizia di particolare la presenza di sette sataniche. Clinton, complotti internazionali. Mi dispiace di informarla che lei si sono guardati. Mi dispiace di dirle che lei si sta inventando. Aspetti un attimo, Ferraro. No. E non ha detto quello che io ho detto. Non sa quello che ho detto. Vabbè, comunque. Quindi la sua operazione è a tutti gli ascoltatori evidente. Evidentissimo. Ma non c'è nessuna operazione. Ferraro, però abbia pazienza. Io francamente, lei io si sarà anche. Lei inventa, ma mi fa piacere che lei inventi, perché così la gente farà click e troverà 4 giga di dati depositati in 4 banche dati. Ma quali giga di dati? Dati? Ma i dati di che? Depositati in banche di dati. Ma dati di che? Oggetto di collegamento da parte di numerosi servizi, di numerosi apparati statuali. E quindi ma Ferraro, ma lei, scusi, ma lei consiglio ma lei, di parlare di ciò che conosce e anche di linkare, perché farà bene alla sua informazione. Vabbè. Ferraro, ma lei non si candida allora alla fine? No, non io, si candida, vabbè. Bene, no, meno male, no, va. Non ho detto, la parola candidarsi è lontanissima. Vabbè, ho capito, si candida o no con Forza Nuova, su, dai. Storico, politico, ma quale progetto storico politico? Su, Ferraro, andiamo, dai. Quello entrato dentro tonnellate di documenti che stanno venendo linkicati come lei non ma sa. Chi? Ma dove? Migliaia di migliaia di persone. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene questa cosa, Ferraro? Nessuno lo sostiene, è semplicemente verificabile. Vabbè. Perché c'è anche un contatore in ognuno dei 25 blog di questa 25 progetto. Blog. Vabbè, sì, prima o poi ci inchineremo di fronte alla sua scienza. La ringrazio. Comunque... Non è scienza, è realtà. Vabbè, è realtà. Conoscenza. E vi ringrazio di aver fatto sentire ai vostri telespettatori chi siete. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Beh, meno male che di aver fatto sentire chi è lei, non chi siamo noi. Lorenzo da Piacenza. Buonasera. Dica. Io sono molto contento da piacentino e da pendolare che Morreggi sia tornato al posto in cui doveva essere, cioè a lavorare. Perché? Perché è una persona arrogante, si è comportato come tale durante tutta la sua amministrazione, è stato un miracolato della politica. Ho capito, però Lorenzo, mi scusi, sarà stato pure come dice lei, però adesso al di là delle frasi è stato eletto per 2 volte sindaco di Piacenza. Allora, la prima volta è stato eletto, nessuno sapeva chi era. Vabbè, ma ho capito, ma è stato eletto, è stato qualcuno è andato a votare, ha scritto rieletto, Reggi. Grazie all'appoggio del partito comunista. Ma ho capito, ma che vuol dire l'appoggio del partito comunista? A me queste cose mi fanno impazzire. Cioè, ma uno è stato 2 volte sindaco e lei mi sta dicendo che è un criminale. Cosa non possibile? No, assolutamente però, non ho detto questo. Non ho detto tra virgolette. Ho detto che è una persona arrogante. No, e ha gestito la campagna di Renzi in modo arrogante. Ma questo bagno di umiltà credo che gli potrà servire. Quello può essere. Perché può continuare a sputare nel piatto in cui ha mangiato abbondantemente non è stato digerito da nessuno. Va bene, grazie, grazie, che... grazie. Giampiero da Reggio Emilia, Giampiero da Reggio Emilia. Sì, buonasera. Dica. No, niente, io volevo semplicemente dire che delle volte lei sa essere maleducato in un modo quasi urticante. Mi riferisco espressamente al modo in cui ha trattato un'ascoltatrice qualche decina di minuti fa. Questa qui le raccontava la sua situazione. Ho capito, ma non abbiamo, noi qui non c'è, cioè non è che stiamo lì a discutere delle, mi parlava della sua situazione, un ex commerciante, mi hanno capito, lasciato senza pensione. Sì, però lei non può dire che noia. Oh, sì, mi annoio terribilmente. Ma così perché ha la pancia piena. Ma no, Mi scusi, Cruciani, è una questione proprio di semplice rispetto delle normali regole, diciamo così, della buona educazione, perché non fa altrettanto con i suoi illustrissimi ospiti. Ma non è vero, mi consenta di dirglielo questo. Vabbè, allora... anche a questo, vabbè, allora e dunque che c'entra, ma che c'entra, insomma, io penso che a volte un modo un pochino più pacato e rispettoso così del dialogo non possa, cioè possa far bene alla trasmissione. Non è questo il luogo adatto, non è la trasmissione adatta per i balli in maschera, per i balli per... Il fatto che io l'ascolti vuol dire che la trasmissione comunque mi piace. No, ma Giampiero, io sono come sono, cioè non cambio atteggiamento, come sono nella vita, rispondo quando mi va di rispondere, quando sento delle cose che non mi interessano, che penso che non interessino, o dei discorsi cui comunque non si può rispondere perché non possiamo dare nessuna risposta. Comunque la signora ha avuto il tempo di dire: io ho fatto questo, mi manca questo, la Fornero non mi ha fatto questo, secondo me ha sbagliato a fare quest'altro, e questo conta. Secchi alla 7, sentiamo. Sia difesa, sanità, quello che vuole, così no, via. Dovete stare di attenti che c'è la perdita di lavoro. Sì, parliamo di acquisti voi, di prodotti non fatti. In questo voi della sinistra, diciamo, che fa riferimento a Nicky Vendola, Sel, purtroppo siete il partito della conservazione, perché voi non siete per il mantenimento o lo sviluppo dei posti di lavoro, ma con questa idea che avete dell'economia voi per la distruzione però dei posti di lavoro. Lei ci ha portato al largo, io parlavo di una cosa concreta. È meglio questa è una verità assoluta, la sanità o prendere dei Anna nuovi da Firenze sedici. Buonasera. Si può in una fase del crisi. Buonasera. Dica. Io volevo, peccato non c'è il signor Reggio. E allora, deve essere sincero, non ha detto solo gli scagnozzi, ha detto che c'era il pericolo dei brogli, ci voleva un controllo nelle sedi perché c'era sì, poi brogli. Ha detto anche da noi, te lo ricordi, Parenzo, Reggi disse che Bersani forse aveva i suoi uomini anche al TAR quando misero sotto accusa il bilancio del Comune di Firenze, una cosa di questo tipo. Insomma, detto di tutti i colori. Il timing con cui ma era una battaglia, è una battaglia politica. Nella battaglia politica si andano colpi bassi, anche a Renzi hanno dato del fascista, del berlusconiano, eccetera, eccetera. No, cioè ne hanno detti di tutti i colori anche a Renzi, su, diciamo la verità, o no? Ho votato Renzi, l'ho votato per le primarie, lo rivoterò ancora, speravo che vincesse, ma mi auguravo tanto che lui non fosse eletto, perché quando si arriva a dire che era impiegato nell'Ilva e che c'era i brogli... No, quello sull'Ilva, guardi che sull'Ilva in realtà mi ricordo che Renzi non sparò, ma questa cosa appartiene al passato. La ringrazio signora Anna, ci sentiamo domani alle 18:30, arrivederci. Basta! Basta! Basta! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sì, l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Radio 24, la passione si sente.